si può fare. Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, 18, 20 e 30 come ogni sera. Si può fare l'attualità anche d'estate. Alessio Maurizio in studio, Carlo Gabardini non c'è, il nostro stagista, opinionista, ancora sul set a Varese a girare il film, tornerà credo domani, proviamo a contattarlo più avanti. In redazione Riccardo Buccero, Laura Faggin, Andrea Piana, Valeria Bernardi in regia. Cominciamo subito, tanti gli spunti questa sera, cominciamo con i titoli di Sky TG24. Sì del governo al decreto contro il femminicidio, lotta senza quartiere, promette Letta, soddisfatto anche Alfano. Il PD riunisce la direzione, confronto sul sostegno al governo, Renzi in pressing su regole e congresso. La Lega vuole abolire il Ministero della Chienghe, che replica meglio usare i soldi del referendum per il Mio Dicastero. Incidente mortale alle porte di Roma, arrestato il pirata, guidava senza patente e in stato di ebbrezza. L'ultimo saluto ad Alice, oggi in Emilia Romagna, i funerali della ragazza uccisa da un'auto a Los Angeles. Strage a Dallas, militare spara tra la folla per uccidere la ex, 4 morti e 4 feriti, l'uomo è stato arrestato. Metti in un angolino, stai fermo, ci fai fare a noi, poi quando arriviamo alle elezioni candidiamo te, così prendi voti. No, lasciate stare me, se si fa questo giochino io i voti non li prendo, perché se c'è un motivo per cui prendo i voti è perché non ci siano loro, perché non sia la foglia di fico. Ma con un gesto della mano che ti fa sentire fico. La mia lealtà sta nel fatto che faccio il tifo per il governo e spero che il governo realizzi le cose che deve fare. Perché questo accada, il governo non deve usare la voce del verbo durare. La voce del verbo durare è un riflesso neodoroteo che porta a dire che ci si preoccupa di mantenersi in vita. Il governo deve fare. È una citazione musicale straordinaria questa della redazione, Riccardo Buccero, Laura Faggin, la canzone di Pippo Franco, chissà che anno era, anni 80 credo, 82, insomma sono passati di annetti, io me la ricordo, ma ero grandissimo, ero piccolino. Però Matteo Renzi non vuole fare la foglia di fico, ieri è tornato a parlare il sindaco di Firenze dalle feste del Partito Democratico, vuole essere lui il più fico, quindi basta larghe intese, andare al voto al più presto e lui sarà il candidato del centrosinistra. Questa è almeno la sua ambizione, non lo può dire fino in fondo perché al governo c'è il suo amico Enrico Letta, che tra l'altro ha detto non andrà in vacanza, lui è Alfano, ha detto oggi Letta al termine del Consiglio dei Ministri resteranno a Palazzo Chigi, non so a fare cosa, loro due, ma insomma il governo non va in vacanza, il Parlamento sì, il governo no, Consiglio dei Ministri riconvocato per il 23 d'agosto. Intanto c'è stato un bel momento di polemica al TG3 Linea Notte ieri sera sul tardi tra Mara Carfagna e Bianca Berlinguer. Sentiamo se le sono dette di santa ragione, sentiamo. Ha parlato ininterrottamente. Non dico di parteggiare, di quindi sostenere, perché so che avrei un sacrificio impossibile. Però quantomeno il dovere della cortesia. Voglio dire, se andiamo agli argomenti concreti, invece di come dire fare demagogia. Qua devo dire 1-0 per la Carfagna, che ha fatto una battuta sulla Bianca Berlinguer dicendo capisco che le venga male di parteggiare per noi, facendosi riferimento al cognome che porta la Berlinguer, al fatto che al TG3 lei l'ha presa male e si è subito indisposta. Poi dopo, altro scambio di Fioretto, sentiamo. ma stiamo a scuola o possiamo dialogare? Vabbè, io faccio il mio mestiere, faccio le domande, dialogare, se permette, oppure, come dire, il mio mestiere è fare le domande, capito, lei dovrebbe rispondere, non è che fa tutto lei, domande e risponde, interrompe. Le chiedo la possibilità di dialogare, allora, c'è la possibilità di dialogare oppure dobbiamo attenersi rigidamente? No, non si deve attenere rigidamente, ma io le faccio le domande come il mio mestiere fare. Ma chiederle anche direbbe però, De Gasperi, avrebbe detto prima. De Gasperi, sento che me tutto la tranne la vostra personale cortesia. Se magari mi me. Fa fare la domanda, come dire, qua il punto è a favore della Berlinguer, perché la Carfagna non la fa parlare, poi vuole dialogare, ma non è lì per dialogare, è lì per rispondere alle domande che gli fa la Berlinguer, quindi uno pari, vabbè. Dove andiamo? Andiamo a sentire Sallusti a proposito del presidente della Cassazione che ha firmato la sentenza Mediaset e la sua incredibile intervista al Mattino Esposito. Che il personaggio sia qualcosa di inquietante, di bizzarro, noi l'avevamo già detto. Inquietante? Inquietante, perché è il presidente della Cassazione, ma il presidente della Cassazione è come è un uomo normalissimo, può essere inquietante, può essere addirittura, e non mi riferisco, e parlo in senso astratto, il presidente della Cassazione può essere anche un lago, un farabutto, una scansione. Il presidente della Cassazione è inquietante. Inquietante sicuramente è stato quello che è accaduto, questa intervista al Mattino, prima smentita, poi è venuta fuori la registrazione, quindi non ha potuto più smentire un bel niente Esposito. Un'intervista, certo, un magistrato può parlare, può dire quello che crede, però eravamo fuori, credo, dai protocolli, insomma, da quello che è previsto. Infatti il CSM ha aperto un fascicolo su di lui. Sentiamo un altro argomento, va avanti, andrà avanti sempre, io credo, questa polemica tra la Lega e il ministro Chieng o Chienge, io dico Chienge perché mi suona meglio e così Letta l'ha chiamata spesso. Qua Bossi, la dichiarazione di ieri, insomma fa una missione di colpevolezza e dice sì dai, abbiamo esagerato, io le stringerei la mano, la reinvita alla festa della Lega, sentiamo. Chieng è stata sicuramente... Se la Chieng accettasse di partecipare a una festa della Lega, lei andrebbe a stringerle la mano? Era un sì, era un sì, andrei a stringerle la mano. Questo dice Bossi, che ammette è stata trattata male. Sentiamo il ministro, del quale un'altra parte della Lega, a questo punto insomma sono varie le voci che parlano, Matteo Salvini oggi ha proposto un referendum per abolire direttamente il ministero della Chieng, non lei ma il ministero proprio. Sentiamo intanto la Chieng che parla di come ha spiegato a sua figlia le insulti che ha ricevuto, il paragone con l'orango, quello di Calderoli. Quando l'abbiamo sentito gli ho detto guarda che non è un attacco alla mamma, è un attacco all'istituzione, perché è un modo per non riconoscere il posto che hanno dato alla mamma. Il messaggio di solidarietà che ho ricevuto anche da Tosi, le scuse che mi ha presentato, però non dimentichiamo l'importanza di un leader, di un capo di un partito e cominciare anche dalla prese di posizione molto ferme e decise. E, che non ci sono state secondo lei da parte di Maroni? No. E la Chienge interviene anche sul reality che la Rai sta preparando, che si chiama Mission, nel quale, abbiamo detto anche nei giorni scorsi, alcuni VIP, Albano, Paola Barale, Michele Cucuzza, andranno tra i rifugiati in diverse parti del Terzo Mondo a fare una giornata insieme ai cooperanti. È un'operazione che è stata criticata perché si sfrutta il dolore delle persone, vero, per fare audience. Sentiamo cosa ne pensa lei. I reality... È un problema molto delicato perché secondo me forse bisogna tener conto anche di quello che è il rispetto della persona e soprattutto quella che è la privacy di una persona che ha lasciato un paese per sfuggire ad alcune minacce, per non farsi riconoscere. E bisogna partire da questa. Partire una mattina per fare una gita. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta come ogni sera. Tra poco intanto salutiamo Laura Puppato, buonasera. Buonasera a voi. Senatrice del Partito Democratico, la sentiremo subito dopo il traffico. Allora prima una good news come sempre prima delle pause, traffico e poi Laura Puppato. And now the good news. A Milano l'associazione Tempo Riuso realizza progetti di recupero degli spazi di edilizia abbandonati. Le aree dismesse in attesa di una nuova destinazione d'uso vengono temporaneamente affidate a canone calmierato o gratuito alle start-up, agli artigiani, agli studenti, ad iniziative culturali. Spazio alle idee. Si può fare l'attualità anche d'estate. In compagnia di Laura Pupato, senatrice del PD, intanto le chiediamo la conferma. C'è oggi la direzione nazionale del suo partito, del Partito Democratico? Alle 7 stasera. Certo. Ecco, sì, tra poco. Quindi seguiremo, anche se a volte diventa difficile questo, seguire il dibattito all'interno del PD, perché c'è sempre molta attesa, poi sembrate sempre un po' compressi, non vengono mai fuori tante cose. Intanto ieri è tornato Renzi a parlare e sostanzialmente, insomma, i titoli dei giornali sono questi: Letta e il PD usano Berlusconi per rinviare il congresso, basta larghe intese, l'ultimatum di Renzi. Lei condivide? Le larghe intese sono un po' agli sgoccioli o no? Beh, come è noto, in tempi non sospetti, quindi ancora quando tutti l'aveva già detto, o larga parte applaudivano le larghe intese, nel mio dubbio, la mia perplessità stava nel fatto che probabilmente per questa situazione economica e politica l'Italia forse avrebbe avuto bisogno di un governo di scopo molto focalizzato sugli obiettivi da raggiungere, funzionale a questo, e che prevedesse una legge elettorale tra gli obiettivi appunto da darsi, in modo tale che in tempi relativamente rapidi, quindi nell'ambito di massimo un anno e mezzo, si potesse tornare al voto. Questo era un po' l'obiettivo che avrei gradito scegliesse il mio partito, vista la mala parata con il Movimento 5 Stelle, ma alla luce di un ragionamento molto semplice, cioè mentre, come dire, si sbandierano quotidianamente i 9 milioni di voti avuti a febbraio dal PDL, non si considera mai che quella è una parte dei quasi 30 milioni di voti, anzi più di 30 milioni di voti che sono stati prodotti dagli italiani, il che vuol dire che abbiamo almeno i due terzi, probabilmente molto di più, della popolazione italiana che in realtà ha votato per un cambiamento rispetto al passato, e questo cambiamento con molta difficoltà si riuscirà a portarlo avanti se all'interno della stessa maggioranza permangono gli stessi, diciamo, valori e obiettivi che aveva quando appunto era guidata da Berlusconi, perché una parte del PDL, voglio dire, che è parte della maggioranza del paese, sicuramente ha ancora in mente di perseguire e perseverare rispetto alle modalità con cui si è presentato al paese negli ultimi 10 anni. Ma lei dice che bisogna cambiare rispetto alla stagione anche di Berlusconi, ma per esempio lei, quando è stato condannato, no, Berlusconi, con la sentenza della Cassazione, sì, cioè la decisione della Cassazione che ha confermato la sentenza, lei personalmente ha esultato oppure no? Perché qualcuno ha scritto che c'è stata una compressione anche dei festeggiamenti e delle emozioni che prevedibilmente nel PD ci dovevano essere. No, ma non si può pensare in politica di vivere di emozioni e di pancia. Quello che è capitato a Berlusconi come persona, come cittadino di questo paese, a me pare sia un fatto in cui c'è poco da gioire, nel senso che lui è risultato condannato in terzo grado di giudizio, quindi è un cittadino che si è macchiato di un reato. Che cosa ci sia da gioire su questo non lo capisco. Il fatto che un leader politico, il vostro leader politico a cui vi opponete da anni, ha subito una sonora sconfitta, questo sì. No, non ha subito una sconfitta, è stato considerato un pregiudicato, e quindi una persona che ha, insomma, che ha, diciamo, commesso dei reati gravi al punto tale da risultare condannato per più anni, diciamo, di detenzione, poi combinati, vista l'età, in probabilmente o lavori sociali o il carcere, diciamo, la carcerazione presso la propria abitazione, ma il dato di fatto che ci consegna di essere stati guidati da un leader politico che ha praticamente abusato delle regole, e quindi non ha accettato per primo le regole che il paese ha, e quindi le leggi che questo paese ha messo in fila, il che vuol dire che c'è andata molto male dal punto di vista dei cittadini, diciamo, di questo paese, anche perché nel frattempo stiamo aspettando le sentenze che gli competono per la parte relativa alla corruzione e alla concussione e alla prostituzione minorile, il che aggrava la sua posizione di cittadino purtroppo penalmente perseguibile, quindi molto, insomma, molto abituato a delinquere, diciamo così. A me pare che questo sia motivo non solo di tristezza complessiva, nel senso che c'è niente da ridere, niente di cui gioire, ma soprattutto c'è da considerare che bisognerebbe voltare pagina, io credo, no? Cioè, però fatto... mi scusi, voltare pagina, l'ha già detto, dal suo punto di vista è chiaro, bisogna vedere poi se il PD volterà pagina o se rimarrà alleato con questo PD. Ma non il PD. Perché il PDL, però, scusi, legittimamente loro chiedono di avere come leader, anche se non sarà candidabile, Silvio Berlusconi. Questo secondo lei è sbagliato, cioè inammissibile? Questo lo giudicheranno i cittadini. Io credo che loro stiano commettendo un errore madornale e le spiego perché. Mentre è del tutto fisiologico e naturale che vi sia una percentuale dei cittadini, vorrei ben vedere il contrario, saremmo un'anomalia mondiale, che è conservatrice e quindi pensa e vuole un partito, come dire, che collochi nel centrodestra politico europeo e occidentale, è del tutto naturale che a questi mancherà un riferimento politico di un partito che abbia, diciamo, dimensioni sufficienti a rappresentare una eventuale ipotesi di maggioranza di governo. Quindi andare a impedire, insistendo con una figura così screditata e così palesemente in contrasto con le leggi di un paese, andare ad insistere con un leaderismo di questa natura in modo così fanatico, così vabbè, poco però, scusi, razionale. Ma allora sono liberi di scegliersi il leader che vogliono, è il leader che gli porta voti. Per cui... No, ma non è vero, questa è una presunzione. Guardi, io posso dirle questo, noi non abbiamo la riprova contraria, noi sappiamo che Berlusconi ha diciamo, fatto recuperare con le sue uscite, peraltro molto, come dire, molto leggibili, no? Uno che a un certo punto è commerciale ed è abituato a vendere il suo prodotto a qualunque prezzo, ha proposto agli italiani da una parte il condono per quel che riguarda in particolare le zone del sud che avevano grandi, vasti territori, diciamo, con questa necessità, e dall'altra ha venduto il tema dell'IMU. Cioè è riuscito praticamente con una sinistra molto afona a vendere dei prodotti commerciali, a dire, vabbè, ha vinto le elezioni, cioè, è stato capace, però vabbè, in passato le ha vinte, no, le ultime no, comunque, le ultime le ha pareggiate, le ha, però comunque, mi sembra, scusi Puppato se posso, mi sembra buffo che il PD che non riesce a decidere il proprio leader vuol decidere quello del PDL. No, ma cioè, no. Se loro vogliono avere Berlusconi, saranno liberi di avere Berlusconi come leader. Infatti io le ho risposto a questa domanda che decideranno i cittadini. Siccome il commento è possibile, dico solo che mi pare che un partito di centrodestra che abbia rilevanza tale da poter raggiungere una maggioranza di governo dovrebbe anche preoccuparsi di essere un centrodestra, a mio avviso, credibile, in grado, come dire, effettivamente di far scegliere gli italiani non tanto e non solo su una figura politica, ma su un'idea di politica, su una possibilità di rappresentare in maniera adeguata un vasto consenso che sicuramente avrebbe, sì, e che sicuramente avrà nell'ambito conservatore. Questo per semplicemente rapportarlo alle democrazie mondiali. Insomma, sì, lei fa un paragone, insomma, con quello che succede negli altri paesi, però sappiamo che l'Italia è diversa da questo punto di vista. No, ma è un'anomalia quella italiana. Questo leaderismo sfrenato, questa necessità di inserire i nomi dei segretari politici e dei leader politici nell'ambito dei simboli politici, anche questa è una... Però scusi, se funziona la figura di Berlusconi come catalizzatore di voti, perché il PDL dovrebbe farne a meno? Questo non si può chiedere a nessuno. Poi lei fa le sue valutazioni, le ha fatte, è giusto che le faccia, ma però guardi, è la richiesta che torna sicuramente al mittente, perché da questo punto di vista non... È un deficit loro, sì. Ma voglio dire... Possibile che in un partito che raccoglie 9 milioni di voti, o che ha raccolto meglio 9 milioni di voti, non riescano ad avere l'idea di poterlo formare con un leader che non si sia macchiato di reati così gravi? Cioè, ci pare normale nel 2013, dopo tutto quello che è avvenuto, che dobbiamo ancora star qui tutti i giorni a discutere sulle vicende giudiziarie di una figura così, a me pare onestamente depressivo, le posso dire. Cioè, mi piacerebbe molto che parlassimo di, ecco, di obiettivi, parliamo di altro, parliamo per esempio di quello che sta facendo questo governo, perché oggi è stato varato questo provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri sul femminicidio, altre cose sono state fatte. Due giorni fa Letta ha fatto il bilancio dei primi 100 giorni, lo chiedo a lei, anche se so che non è, come ce l'ha già detto, una fanatica di questo governo, però non è curioso che un governo nato per fare tirar fuori l'Italia dalla recessione, fare riforme istituzionali, ridurre il numero dei parlamentari, abolire, ridurre il finanziamento pubblico dei partiti, le province eccetera, adesso si occupa del femminicidio? No, beh, non è che questo governo deve occuparsi di molto, come deve occuparsi nel Parlamento, non è un caso che si lavori fino al 10 di agosto, non è un caso che si torni praticamente alla fine di agosto, quindi è chiaro che c'è una situazione di emergenza in questo Paese, ahi noi, non soltanto per un settore, cioè non c'è solo il settore economico, c'è un settore civile, di diritti civili, c'è un settore di pubblica amministrazione, c'è un problema relativo ai debiti contratti dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese in generale. Ma anche questo campo, mondiali, per esempio la legge sui figli naturali qualche settimana fa mi aveva colpito anche questo, cioè sono priorità. Io le dico l'impressione da uomo della strada, da cronista, è che si cerca di tirare un po' a campare rimandando l'IMU, rimandando il finanziamento pubblico dei partiti, rimandando tante cose, facendo altro, non so. Guardi, intanto la questione relativa all'IMU è stata, diciamo, prorogata, cosa che non rende particolarmente felici i comuni, ma che sicuramente soddisfa larga parte dei cittadini. Dopodiché bisognerà individuare non solo la copertura economica, che si fa fatica a individuare, ma in realtà quale alternativa ci sia dal punto di vista, diciamo, dell'applicazione magari di un'unica imposta, come si cerca di fare sui fabbricati e sui patrimoni. Al di là di questo, le dico che si potesse fare di più o diversamente, penso che si possa dire di sì. C'è questa necessaria mediazione che purtroppo funge anche, diciamolo chiaramente, da zavorra per certi aspetti, cioè da limitazione dell'attività, insomma, perché è chiaro che quando devi mediare devi trovare un consenso vasto su partiti che normalmente sono in opposizione l'uno all'altro, la questione non è così rilevante, no? E dall'altra dobbiamo anche dire che alcune cose positive sono state fatte, sto parlando dell'ecobonus, ma sto parlando anche per esempio dei debiti che appunto stiamo cominciando a restituire rispetto alle necessità delle imprese. Dico che un'altra delle questioni sulle quali abbiamo, io credo, lavorato discretamente sono quelle, le tematiche ambientali, dove abbiamo avuto per la prima volta dopo molti anni, abbiamo ridotto il numero di aperture di infrazioni comunitarie. Anche questi sono soldi, oltre che la mancata applicazione di norme e regole europee. Quindi è la prima volta che scendiamo sotto i 100, avevamo 134 infrazioni aperte e ne abbiamo eliminate 37 in due mesi, ma insomma abbiamo fatto anche molto altro rispetto per esempio al lavoro dei giovani, rispetto alle questioni di promozione, diciamo, dell'attività delle imprese, rispetto alla stessa possibilità di mettere a frutto, diciamo, finanziamenti a favore di queste. È chiaro che non sono, come lei ha detto giustissimamente, l'ultimo DL fare è stato in questo senso, anche se vogliamo, criticato. Quando si mette mano a troppe cose tutte insieme, ma in modo non, come dire, senza una quadratura per ogni singola realtà, quando io metto mano a... Si dà l'impressione un po' anche del caos, io lo esagero, ma quantomeno... No, diciamo che l'idea è proprio quella di non andare a lavorare su un tema affrontandolo compiutamente e risolvendolo e mettendo quindi in campo le necessarie... le necessarie pratiche per riuscire ad avere un quadro positivo per i cittadini e per la società. Torniamo un attimo alla direzione nazionale del suo partito che si riunirà tra poco. Lei che posizione porterà relativamente al fatto? Epifani ha detto che non ci può essere un salvacondotto per Berlusconi, il PDL continua a chiederlo. Se rimarranno queste le posizioni, sarete voi a staccare la spina quindi del governo, perché non volete essere alleati di un partito che vuole essere guidato da Berlusconi? No, no, il problema non è questo. Il partito può essere guidato da chi gli pare, perché tanto quella è una decisione loro. Quello che non possiamo accettare è che il partito si occupi della vicenda di Berlusconi come se fosse un problema che riguarda gli italiani. È un problema che riguarda Berlusconi, è un problema di un condannato. I condannati in ogni paese, mi creda, non ne troverà uno in cui questo non avvenga. Di norma, come dire, è sufficiente il dubbio, come diceva mia madre, no? Per mettersi da parte quando si è parte delle istituzioni. Le istituzioni non possono lasciare dubbi sulla propria onestà e sulla propria qualità agli italiani, perché altrimenti buttiamo via il paese, così come stiamo facendo e come abbiamo fatto in passato. Dunque, quello che dovrebbe fare, a mio avviso, Letta, e quello che io chiederò a Letta questa sera, non è semplicemente una riprovazione rispetto a ciò che sta avvenendo nell'ambito di un partito che si era espresso esplicitamente in aprile, perché i dubbi li avevamo tutti, no? Ma si era espresso esplicitamente non ponendo condizioni di sorta alla necessità di dare un governo di emergenza al paese e un governo di servizio a questo paese. Bene, ora Letta ricordi la promessa e comunichi al PDL che il suo senatore, perché è solo un senatore sì, oggi, Berlusconi, deve, come dovrebbe avvenire in qualunque paese occidentale democratico, deve semplicemente dare le dimissioni. Così non metterà neppure in imbarazzo il Parlamento e i suoi parlamentari, che dovranno altrimenti definirne e determinarle la decadenza ai sensi della legge Severino del 2012. Staremo a vedere, staremo a vedere se questo avverrà. Intanto questa è la posizione della Puppato, candidata tra l'altro alle primarie, lo ricordiamo, che porterà stasera la direzione del suo partito. Grazie per essere stata con noi, ci fermiamo qua. 800 24 00 24, tra poco dopo le borse cominciamo a sentire gli interventi degli ascoltatori, tra un attimo. And now, the good news! Maiolati Spontini, nelle Marche, è un comune a debiti zero. Tutto merito della discarica. I comuni vicini pagano per lo smaltimento dei loro rifiuti. L'amministrazione comunale incassa e reinveste in biblioteche, parchi attrezzati e in una scuola all'avanguardia. In pochi anni sono stati estinti mutui per oltre 2 milioni di euro. E non chiamate la monnezza. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24. Come detto, tra pochissimo cominciamo a sentire i vostri interventi. Abbiamo Gabardini collegato. Sì, Gabardini. Buonasera, ci sono. Buonasera, ti stanno scortando verso Milano? È così? No, ho ancora la fede al dito perché sto interpretando un personaggio che è sposato e dopo partirò per Milano, ma mi sembrava più saggio, diciamo, parlarti prima della partenza, perché poi in macchina può essere più difficoltoso. Magari non ci abbiamo la linea. Io non sapevo se intervenire presso Giulio Base, il regista del film, per chiedere l'estradizione di Gabardini, però vedo che ci siamo arrivati. Fra l'altro sei arrivato giusto in tempo, perché le regole di ingaggio che non ti consentono di intervenire con gli ospiti invece ti consentono di parlare con gli ascoltatori. Ed è arrivato anche se oggi dovrei avere nuove regole di ingaggio, cioè quelle dell'inviato in giro per strada, giusto? Però non so come siano. Dove posso sei tu adesso? Con chiunque. Sei per strada? Sono a Luino, sul Lago Maggiore. Sì, c'è qualcuno intorno a te con cui vogliamo parlare? Vuoi parlare? Non c'è assolutamente nessuno, ecco. C'è un tempo da lupi, peraltro. Cioè sta piovendo. Pioggia, poi smette, poi ripiove. Ti dico solo che ieri stavamo girando una scena in cui c'era la pioggia finta e dopo la pioggia finta è venuta giù la pioggia vera che ha, diciamo, fatto venire anche un blackout. Cioè potevate risparmiare a un certo punto con la pioggia finta. Il produttore infatti piangeva. Ti devo aggiornare su quello che è successo oggi, i temi di attualità? Vabbè, lasciamo, o hai letto qualcosa? No. Non ho letto assolutamente niente, giustamente. Ho letto la sceneggiatura. Ecco. Vabbè. Sono un pessimo inviato, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. No, gli argomenti sono questi, insomma, il governo ha approvato un provvedimento sul femminicidio, nuove misure importanti, ci sono dentro delle cose anche per fermare i no-tav che stanno protestando. Alfano e Letta staranno tutta l'estate a Palazzo Chigi. Ah, perché non vanno in vacanza insieme, sì, una strana coppia. Nella stessa stanza? E questo non si sa, però così ha detto Letta. È una doppia, diciamo. Palazzo Chigi, una doppia estiva. Esatto, e poi che altro? Ci sono varie cose, adesso vediamo. Per esempio va avanti la polemica tra la Lega e il ministro Chieng. Salvini ha chiesto di raccogliere le firme per abolire il Ministero dell'Integrazione addirittura. Perfetto. Il Ministero, meglio però abolire il Ministero piuttosto che, fino a ieri volevano abolire la Ministra, è diverso. È già un passo indietro, tu dici? Direi di sì, era più grave, mi sembrava più mirata, diciamo, al colore della pelle, invece è proprio mirato al ruolo istituzionale, è diverso. Così abbiamo fatto meno razzista, diciamo. Abbiamo fatto un piccolo riepilogo. Roberto da Roma, buonasera. Roberto, buonasera. Prego. Allora, io ho sentito poco fa anche l'appupato a proposito del salvacondotto per Berlusconi e mi chiedevo se era il caso di fare il processo Rubi, perché questa povera ragazza che è stata messa in mezzo così involontariamente, e poi per De Gregorio, questo santo uomo che addirittura si è autoaccusato, se facciamo i processi e Berlusconi viene condannato, che cosa farà il PDL? Allora, tanto vale non farli. Tenerlo così siamo sicuri che non lo processiamo, non lo condanniamo. Così salviamo il governo, salviamo tutto. Va bene, Roberto, vuoi aggiungere qualcos'altro? No. No. Grazie, buona serata. Fabio da Rimini. Processi, così sì. Siamo tutti tranquilli. Fabio da Rimini, buonasera. Buonasera, quella di Cruciani non è male, ma la sua è meglio. Comunque, così, vabbè, subito, io gamba tesa. Dire solo, Madonna, ho un ritorno mostruoso, sento malissimo. Comunque, volevo parlare del giudice Esposito. Per me sarà stato probabilmente ingenuo rilasciare l'intervista, però già il mattino sembra che abbia giocato sporco perché non hanno pubblicato tutta la registrazione, quindi probabilmente avrà le sue ragioni che Esposito, probabilmente non avrà detto quello che hanno pubblicato. Ma in ogni caso, anche se l'avesse detto, la Cassazione mi risulta che non doveva rifare il processo nel merito, doveva solo guardare se la prima, la seconda, il primo e il secondo processo erano stati fatti bene oppure no. Hanno confermato che il primo e il secondo processo sono stati fatti bene. E c'era Franco Tatò, se non ricordo male, che in udienza ha dichiarato che di quelle cose del comparto estero se ne occupava personalmente ed esclusivamente Silvio Berlusconi, consigliato solamente da Silvio Berlusconi. Quindi di che cosa parliamo? Di che cosa si scandalizzano i trombettieri a Libro Paga dell'illustre? Sì, ma non trova che l'intervista di Esposito sia una cosa un po' originale o inadeguata? Inusuale, forse ingenua. Forse ingenua, ma in fondo cosa ha detto di male? Lui non è più un giudice terzo, ha già giudicato. Sì, però bisogna aspettare ancora, credo, le motivazioni e comunque... Ma è già successo che hanno... ho letto sui giornali che altri magistrati per altri processi importanti che avevano suscitato clamore in opinione pubblica, ancora prima della pubblicazione delle motivazioni, avevano fatto conferenze stampa per spiegare perché avevano fatto. Sì, però guardi, non mi convince. Sa perché non mi convince? Perché lo stesso Esposito, di fronte al quando gli hanno detto che quell'intervista non andava fatta, ha detto: beh, infatti io non l'ho fatta, ho solo fatto alcune dichiarazioni, sono state travisate. Infatti, e poi è venuto fuori l'audio, e poi è venuto fuori l'audio dell'intervista, quindi non era come diceva lui. D'accordo, è stato un ingenuo, magari si è lasciato trasportare, quello che vogliamo, però non cambia nulla, questo signore è stato giudicato prima nel merito, cioè la Cassazione doveva solo guardare che fosse stato fatto tutto correttamente, ha trovato una pecca sull'interdizione, ha modificato la sentenza solo su quel lato lì e il resto l'ha confermata, non dovevano giudicarlo di nuovo. Ma che non cambi niente con la sentenza, penso che non ci siano dubbi, giusto? Male, in realtà che non cambi la sentenza non ci sono dubbi. Però? No, ho capito male, ripeto. Per no, un attimo, è Gabardini che sta interferendo da Luino. Sì? Che cosa vuoi dire esattamente, Carlo? Che non mi che il problema è semplicemente di inopportunità di aver fatto quell'intervista, ma non è che ci si sta chiedendo se in realtà quindi questo annulli la sentenza. Ovviamente la sentenza rimane, non c'è nessun problema su quello. Solo che gli altri... solo che gli altri nel frattempo hanno le trombe al massimo volume. Sì, ma gli altri, però gli altri, Fabio, sono politici e sono pagati per fare dichiarazioni, invece il magistrato è pagato per fare sentenze, non per fare queste interviste, sì, per poi smentirle e non servono a nulla, io credo, questo è il mio punto di vista. Però è stato un po' ingenuo sicuramente, ma questo non cambia, questi qua adesso vogliono ricorrere alla Corte dei Diritti Umani a Strasburgo e compagnia bella, ma questa è un'altra cosa, questa è un'altra cosa, comunque quello, anche senza l'intervista di Esposito. Esatto, questo è un altro percorso e ci sarà comunque. Grazie Fabio da Rimini. Andiamo dove andiamo? A Luigi da Padova. Buonasera Maurizio, complimenti, lei è meglio di... ok. Ascolti, un'osservazione semplice, spero non risulti banale, però io sono un elettore di centrodestra e osservare la qualità della ministra Kyenge a me piace, mi piacerebbe che fosse anche esaltata. È una ministra che si muove con mitezza ma anche forza, educazione, e in questo momento rispetto a una politica arrogante, gonfiata e anche vuota, secondo me questa si distingue. È un bel esempio che arrivi da una straniera, ecco, questo esempio per una politica in Italia che mi piacerebbe vedere migliore. Grazie Maurizio. Grazie, l'ha scritto Vittorio Feltri qualche tempo fa sul giornale, un elogio sperticato del ministro sulla falsa riga di quello che stava dicendo lei. Marco da Livorno, buonasera Marco. Marco? Come? Da Viareggio. A me hanno scritto da Livorno, mi perdoni. Marco da Viareggio allora, prego. Perfetto, allora, riguardo la Kyenge, ma chi ce l'ha messa la Kyenge lì? Voglio dire, un po' cruda la domanda, ma chi è stato a eleggerla? È il Ministero dell'Integrazione, chi l'ha istituito? Ma scusi, ma chi è che l'ha eletta? Ma come si parla? Un ministro non viene eletto, viene nominato. Chiedo scusa. Dall'Etta, è stata messa lì Dall'Etta e Alfano che l'hanno fatto. Cioè, in un momento come questo era indispensabile fare una cosa del genere? Ma non lo so, non era indispensabile nemmeno questo governo, secondo alcuni. Si figuri se era indispensabile il Ministero dell'Integrazione. Mi pare che manchi un po' di saggezza a tutti quanti, eh? Ognuno di quelli si muove bene, parlano bene, semplicemente perché hanno degli ottimi stipendi, non hanno di cui preoccuparsi, la crisi loro non la sentiranno mai, il posto di lavoro lo perdono tutti, meno che loro, e questo fa dispiacere perché penso che milioni di italiani siano un po' scontenti di quello che sta accadendo, anche perché non concludono niente, non si fa niente. Cioè a lei questo governo non le piace, sembra un governo che tira a campare. L'abbiamo detto anche noi poco fa, che c'è un po' questa sensazione. Diciamo, come tutti gli altri governi, diciamo, è così, l'andazzo è quello, tanto non sanno cosa fare. Tanto il governo è rimasto, cioè siamo rimasti senza governo per un bel po' di tempo, dicendo che c'era bisogno di un governo, ma anche senza quello andava avanti l'Italia. L'Italia va avanti per un tram-tram. Quello che succede, quello che fanno gli altri, poi chi è lì nell'amministrazione pubblica, in eccesso, in esubero, con dei costi enormi, esagerati. Oggi ho sentito al telegiornale si parlava di pensioni da 91.000 euro al mese fino a 45.000 euro. Questa è una cosa incredibile, questa è una cosa veramente scandalosa. 13 miliardi, se ho letto bene, se ho capito bene, di euro l'anno ci costano questi 100.000 pensionati d'oro che guadagnano le pensioni impressionanti e che andrebbero sicuramente riviste. Questo è il mio punto di vista. Grazie. Gabardini, ci sei? Sono Carlo da Luino, mi scusi. Carlo da Luino. Volevo farle i complimenti intanto. Sì. E poi volevo chiedere, ma queste pensioni d'oro sono di politici o sono di manager? Sono di manager, per la maggior parte c'è un elenco, sì, lungo, di tanta gente. Quindi non sono politici. Non sono politici. Non è il solito tran-tran, come dice Carlo da Luino, che sono io. No, in questo caso non c'entrano nulla i costi della politica, ma sono altri costi. Gravi anche questi, ma volevo dire, ma tu sei da solo a Luino in mezzo alla pioggia, non passa nessuno, non succede nulla, no, ma adesso spostati. Sono tornato nel mio camper e quindi almeno c'è un po' meno vento, solo che eravamo in due, stavo facendo cambiare un altro attore e mi sembrava scortese stare dentro mentre lui si cambiava. Evitiamo situazioni incresciose. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. And now, the good news! Sulle colline del Piceno è tornato a fiorire l'anice verde. La pianta, riscoperta da un'agronoma del luogo, è l'ingrediente principale dell'anisetta Meletti, un antico liquore da aperitivo tornato in produzione. per la raccolta sono state impiegate persone di una cooperativa che cura le dipendenze. È proprio il caso di dire alla salute. Si può fare l'attualità anche d'estate. La copertina musicale ce l'abbiamo? Facciamo un breve ripasso, vai! Qualcuno mi ha detto, tu Matteo ti metti in un angolino, stai fermo, ci fai fare a noi, poi quando arriviamo alle elezioni candidiamo te, così prendi voti. No, lasciate stare me, se si fa questo giochino, io i voti non li prendo, perché se c'è un motivo per cui prendo i voti è perché non ci siano loro, perché non sia la foglia di fico. Lavoriamo determinatissimi, aggiungo anche che abbiamo fissato il 23 di agosto la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, quindi lavoriamo senza interruzione, aggiungo anche che noi due, oltre altri ministri, saremo qui in sede la prossima settimana, alternandoci, quindi per quanto ci riguarda il governo non va in vacanza. È il dualismo del momento, avete sentito? Renzi che scalpita, non vuole fare la foglia di fico del PD, vuole fare lui il fico, vuole candidarsi, vuole che insomma questa santa alleanza col PDL prima o poi finisca, manca solo un casus belli, però Letta, poco rassicurante dal suo punto di vista, ha detto no, noi siamo qua ad agosto, io e Alfano siamo a Palazzo Chigi, va tutto avanti, il governo, continuiamo a lavorare, eccetera, eccetera. Oh, c'è spazio anche per una polemica di stampo politico-informatico, diciamo così, tra Caliendo del PDL e Crimi del Movimento 5 Stelle, perché Crimi ieri sera, durante la seduta della Giunta per le Immunità, che ha rimandato il voto sull'ineleggibilità di Berlusconi, questa è la proposta del Movimento 5 Stelle, non sulla decadenza di Berlusconi, ma proprio sull'ineleggibilità, sapete che il Movimento 5 Stelle la porta avanti da tempo, ha twittato in diretta gli aggiornamenti della seduta e Caliendo ha detto questa cosa è una violazione, Caliendo del PDL, delle prerogative del Senato. Sentiamo. Ho letto oggi dalla stampa che il senatore Crimi ha trasmesso in diretta su Twitter, nonostante lei sa del vincolo del segreto sull'attività della Giunta, perché la regola della Camera di Consiglio è chi non sa stare in Camera di Consiglio non c'è possibilità. Io le chiedo la tutela del rispetto delle regole che assistono il regolamento della Giunta delle Elezioni. Senatore Caliendo, la invito ad andare a lei www.senato.it, lo dico a tutti per chi non lo sapesse, lavori del Senato, commissioni e giunti, giunta per le elezioni e resoconti sommare, c'è il resoconto della riunione del 29 luglio. Senatore Caliendo, mi dispiace, c'è scritto parola per parola quello che lei ha detto, cosa che io non mi sarei mai permesso di fare in Twitter. Quindi, se non siete in grado di utilizzare questi strumenti informatici, adeguatevi. Grazie. Vabbè, ogni giorno porta la sua pena. Ieri c'era la Mussolini che parlava in napoletano citando Esposito, oggi ci sono Crimi e Caliendo che litigano. 800 24 00 24, chi andiamo a sentire? Giovanni da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Io sono uno di quei tanti elettori, sì? Forse 7, 8, 10 milioni, non lo so, che si riconoscono nelle idee di Silvio Berlusconi. Ma non perché le esprime Silvio Berlusconi, ma semplicemente perché quando lui esprime quei concetti noto che corrispondono esattamente con le idee che ho io e con i propositi che avrei io. Io vorrei avere una nazione che portasse avanti questi progetti, non sto giudicando l'uomo, nessuno è un santo, ma quei progetti potrebbero migliorare probabilmente l'Italia. Qua in questo momento noi abbiamo un Parlamento che non so cosa cavolo sta combinando, ma d'altronde se noi giudichiamo il Parlamento è composto praticamente da magistrati, avvocati, commercialisti, faccendieri, sindacalisti e politici. E gente nominata da Berlusconi pure, eh? Non anche, si dimentichi certo, questo, certo, perché se lei è un suo elettore, cioè questo, le liste le fanno i partiti e il capo del partito di centrodestra è lui. Poi è ci sono, vero, quelli del PD e quelli del Movimento 5 Stelle. È vero, ma dato che però lì dentro tutti questa massa... Cioè non vale questa dialettica che dice lei tra il capo partito Berlusconi che vuol fare le cose e i parlamentari che frenano tutto, perché i parlamentari, quella parte lì, sono nominati da Berlusconi, quindi... Le ho detto che lei ha perfettamente ragione, ma con questo quindi, io non ho messo il cervello in tasca a Berlusconi, sto semplicemente esprimendo le mie idee su questo sistema politico che c'è in Italia. Trovo quelli che non ci rappresentano o che non rappresentano quella parte del mondo italiano che vuole produrre, fare e che vorrebbe un'Italia diversa e migliore di quella che c'è attualmente. Si stanno occupando di una serie di problemi che sono diversi da quelli che vogliono invece i cittadini. I cittadini sentono sulla pelle questa crisi mondiale, anzi ho sbagliato a usare il termine mondiale, la crisi è europea, non mondiale, perché se noi andiamo a guardare al di fuori dall'Europa, il mondo sta crescendo e sta correndo. Va bene, Giovanni, ho capito il suo intervento, lei dice c'è la crisi, il governo dovrebbe occuparsi di altro. Posso fare una domanda? Sì, è Gabardini. Sono Carlo da Luino, mi scusi, sono Gabardini da Luino. No, perché anche io non giudico l'uomo minimamente, però la cosa curiosa è che comunque negli ultimi 20 anni Berlusconi è stato lungamente, diciamo, al governo. Quindi come si sposa questa cosa col fatto che lui ha delle idee straordinarie? Si sposa semplicemente che io condivido le idee, non quello che è riuscito a fare, sono d'accordo con lei, non è riuscito a realizzare le sue idee. Io condivido le idee, non quello che ha fatto, o che non è riuscito a fare perché per varie ragioni lui era sempre stato circondato, non ha mai avuto, noi non abbiamo un dittatore in un sistema parlamentare. Ma li ha tutti scelti lui quelli da cui era circondato però? Era circondato da persone che l'hanno frenato una volta di qui, una volta di là. Una volta, è circondato da persone che ha nominato lui, se parliamo, diciamo, dei suoi. Vabbè, se però, gli altri sono la Lega. Sì. Se voleva eliminare i forestali, si opponeva Fini. Sì. Se voleva toccare le pensioni. Giovanni, le faccio. 94, Giovanni, abbiamo capito questo punto. Questo punto, Giovanni. Allora abbiamo capito questo punto. Ci dica, Giovanni, mi scusi, le faccio io una domanda, però, per fare un passo in avanti. A questo punto, la sua conclusione è che bisogna ridare la fiducia a Berlusconi che ci riprovi, o che visto che le idee sono buone, deve portare avanti qualcun altro, visto che lui non ce l'ha fatta? Se ci fosse qualcun altro che si propone per portare avanti queste idee, ben venga, certamente. Va bene, fermiamoci qua. Abbiamo il giornale radio. Grazie Giovanni, grazie anche a Gabardini. Lo risentiamo dopo, credo, spero, a meno che non lo sequestrino di nuovo. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta dopo il giornale radio. And now, the good news! A Roma, al municipio 18, i volontari per il decoro urbano si danno da fare contro la sporcizia, le scritte vandaliche e le affissioni abusive. Periodicamente organizzano i Decoro Days, mattinate dedicate alla pulizia delle strade e delle aree verdi. Ne hanno già organizzati 15. Roma non fu pulita in un giorno. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, rilanciamo il numero verde per intervenire in diretta tra pochissimo, insieme anche Carlo Gabardini. Ci sei? No, non c'è. Come? Pensavo che ci fosse, lo avevamo in collegamento da Varese a Luino, dove sta girando il film. Volevo sapere se c'era qualcosa su Twitter, se stava twittando un po' su questa serata da inviato. Ricordiamo i nostri contatti: si può fare @radio24, poi si può fare 24 su Twitter, 349-238-6666 per scrivere i vostri sms. Andiamo avanti con i titoli del TG3 adesso. Arresto in flagranza, pene più dure, via da casa, il coniuge violento. Il Consiglio dei Ministri approva le nuove norme contro la violenza sulle donne. Sempre alta la tensione politica, il PDL avverte le ali al governo, ma serve una soluzione per il Cavaliere. Intanto prepara la campagna d'agosto. Il PD, nessun intervento ad personam, la legge è uguale per tutti, il partito riunisce la direzione, i renziani subito alla data del congresso. Letta, siamo determinatissimi ad andare avanti, lavoreremo anche ad agosto, prossimo Consiglio dei Ministri il 23, il ministro Quagliariello, ospite del TG3. IMU, Saccomanni presenta 9 proposte di riforma, ora tocca ai partiti della maggioranza, scegliere, dice il ministro. Ogni giorno si muore nel mare tra l'Africa e l'Europa, un uomo e un bimbo lasciati alle onde dall'ultimo barcone è arrivato in Sicilia, il CIE di Lampedusa oltre quota 1000. Oggi ricorre il 57esimo anniversario della tragedia della miniera di Marcinelli in Belgio, dove morirono 262 minatori, per la maggior parte migranti italiani, ancora dolore nel ricordo. Qualcuno mi ha detto, tu Matteo ti metti in un angolino, stai fermo, ci fai fare a noi, poi quando arriviamo alle elezioni candidiamo te, così prendi voti. No, lasciate stare me, se si fa questo giochino, io i voti non li prendo, perché se c'è un motivo per cui prendo i voti è perché non ci siano loro, perché non sia la foglia di fico. Caro Presidente del Consiglio, vai avanti e fai quello per cui sei stato votato. Se non sei in grado di farlo, non cercare alibi in chi sta fuori dal Parlamento, perché noi facciamo il tifo per te, noi siamo dalla tua parte, ma perché siamo dalla parte dell'Italia, non perché abbiamo un gioco politico. Noi lavoriamo determinatissimi, aggiungo anche che abbiamo fissato il 23 di agosto la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, quindi lavoriamo senza interruzione. Aggiungo anche che noi due, oltre altri ministri, saremo qui in sede la prossima settimana, alternandoci. Quindi per quanto ci riguarda, il governo non va in vacanza. Gabardini, hai sentito che scelta musicale, che citazione, che fico di Pippo Franco? Bellissimo, molto apprezzato. Era l'82, ci siamo informati. Ero già vecchio. Eri già vecchio, ma te la ricordavi questa qua? Sì. Sì, certo che sì. Perché Matteo Renzi non vuole fare la foglia di fico del PD, ha detto ieri, è tornato a parlare dalle feste del PD, vuole fare lui il più fico del PD possibilmente. Vuole fare Adamo, direi. Vuole fare Adamo direttamente, e invece Letta, a me ha fatto sorridere questo confronto, Letta che ha detto io e Alfano non ci muoviamo da Palazzo, ci stiamo qua. Il Consiglio dei Ministri è già convocato per il 23 agosto, passiamo Ferragosto qua, sembra quasi che mentre Renzi scalpita per andare lui al governo, Letta non si smuove da Palazzo Chigi perché teme un po' l'arrivo. Anche paura, ha paura di lasciarlo libero che poi arriva Renzi. Esatto, se lascia Palazzo Chigi libero arriva Renzi. È un presidio, direi, più che un governo. Ma la domanda a questo punto che potremmo fare agli ascoltatori 800 24 00 24 è: a Matteo Renzi conviene questa situazione oppure non converrebbe entrare ancora di più a gamba tesa e proporsi per la fine di questo governo, far capire che non la sua parte almeno non lo sostiene più e presentarsi lui come catalizzatore di voti, potrebbe prenderli anche dal centrodestra, questo almeno pare che sia possibile, insomma. Però quindi deve spaccare il PD a questo punto e fare un nuovo partito. Dovrebbe spaccare il PD e fare un nuovo partito, però sarebbe una situazione di dinamicità maggiore, più dinamica, più movimento, altrimenti Renzi forse, la domanda che facciamo agli ascoltatori, rischia di rimanere prigioniero anche lui delle dinamiche del PD, in questo caso 800 24 00 24. Mi sono permesso di rispondere semplicemente perché sono Carlo D'Aluino, che sta facendo anche lo stage da ascoltatore, volevo dire. Doppio e stage. Quindi chiamo ogni tanto e faccio anche delle domande o rispondo alle domande che tu fai agli ascoltatori. Sentiamo anche Roberto Benigni nei suoi spettacoli su Tutto Dante, è tornato a commentare anche come sempre fa l'attualità da par suo, e ha ricordato che c'è gente pagata, ha detto che secondo lui c'era gente pagata per andare alla manifestazione del PDL in via del Plebiscito in solidarietà a Berlusconi. Ha risposto subito Brunetta, lo sapete, è cronaca di ieri, ha detto ci diffama e uccide Dante, tra l'altro. Allora, io non so se è più credibile Benigni come commentatore politico oppure se va meglio Brunetta come comico, perché le due cose potrebbero funzionare. Sentiamo Benigni, un po' di Benigni. L'Ulisse, c'è bisogno di dire chi è, tutti conoscete Ulisse. Ulisse è uno che lascia la moglie a casa, va con tutte le donne che gli capitano a tiro, è furbo, bravissimo a raggirare le persone, perseguitato, ha passato molto tempo sulle navi, ci ha avuto una storia con una ninfa che era la nipote di Poseidone, c'ha 7 ville a Itaca e c'ha il terrore di sentire le sirene da un momento all'altro. Quindi Ulisse lo sapete tutti chi è. Ma io, guardate, io ragazzi, io penso a quelli del PD, ma non gliene va bene una proprio. Ma dico, hanno aspettato 20 anni che condannassero Berlusconi, ora lo condannano, si sono alleati. No! Ma dico, no, proprio ora! Proprio ora! Perché lì c'hanno champagne e frigorifero, è diventato aceto, è 20 anni che dico. Non l'avevo sentita questo sullo champagne è diventato aceto. Devo dire che è la domanda che abbiamo fatto anche alla Puppato, cioè avete esultato per questa cosa dopo 20 anni di opposizione a Berlusconi? No. E allora cosa state facendo? Lei, tra l'altro, che è una delle meno fanatiche di questa alleanza, però neanche lei è riuscita a dire che per questa cosa hanno stappato lo spumante. Però non mi sembra tanto duro Benigni, devo dire. Sì. Cioè, nel pezzo sentire, se c'è il paragone con Ulisse, ho sentito paragoni peggiori nei confronti. Questo andava bene. Sai qual è la parte che ha fatto infuriare Brunetta? Non so se l'avevamo selezionata. La parte in cui Benigni dice che chi è andato alla manifestazione del PDL era pagato. Gli è andato il panino, eccetera. La solita cosa che si dice di queste manifestazioni, che poi accade secondo altri anche per i sindacati. Ce l'abbiamo quel pezzettino? No, non ce l'abbiamo. Comunque quello ha detto. Poi non mi sembra, voglio dire, nel senso che comunque non essendoci stati neanche dei numeri oceanici, non mi sembra neanche poi. Vabbè, un problema, ma tu sei un di loro gli hanno dato il panino. Sei un collega di Benigni, fai il comico anche tu ogni tanto, l'autore, quindi siete cioè è una difesa di categoria questa qua. No, assolutamente. Sentiamo, non volevo difendere. Sentiamo invece cosa sentiamo? Bossi che scavalca a sinistra Maroni nella difesa del ministro Kieng. Kieng è stata sicuramente trattata male. Se la Kieng accettasse di partecipare a una festa della Lega, lei andrebbe a stringerle la mano? Insomma, le stringerei la mano, è stata sicuramente offesa, eccetera, eccetera. Il ministro Kieng che dice va bene tutte le scuse che mi avete fatto, però io voglio quelle di Maroni, perché è il leader politico, questo l'ha ribadito. Ha ribadito anche altre cose, ha detto anche altre cose, e poi una stoccatina sul parlare l'italiano alla Lega. Magari voleva dire un invito a qualcun altro a andare alla scuola di italiano, sicuramente non alla sottoscritta. A chi? No, a chi intendeva? Non lo so, forse qualcuno della Lega. Battutina della Kieng sul fatto della Lega che non parla italiano. 800 24 00 24, tra poco riprenderemo con gli interventi degli ascoltatori. Adesso però è il momento del punto di vista strambo, che sempre abbiamo ogni sera a quest'ora. Cerchiamo di raccontarvi le opinioni di outsider di varia natura e categoria. Questa sera abbiamo riconvocato Antonio Bertolotto, imprenditore di Cuneo, che va girando l'Italia, zaino in spalla, per denunciare le mancate politiche verso le imprese. Bertolotto, buonasera. Buonasera a lei, come andiamo? Andiamo benissimo, grazie. Anche lei? Tutto a posto? Benissimo, benissimo. Dove si trova al momento? In marcia o in vacanze meritate? No, sono in Francia e in Bretagna. Ah, ma quindi ha sconfinato col suo tour per andare in Francia per fare che cosa? Vacanze? Per lavoro. Uno per indagare poi in generale sulla questione energie rinnovabili in Francia, che per capire come il governo francese si è regolato con i produttori locali. È andato a carpire qualche segreto, a copiare qualche buona idea. a entrare in qualche progetto, perché Bertolotto, ricordiamolo, sembra un personaggio stravagante, ci sono i suoi video nel sito Sosesi su YouTube, lui che va in giro, che parla con la gente per motivarla, però è un imprenditore che ha sulle spalle un'azienda di quanti dipendenti, ricordiamolo? Eravamo 160, siamo andati a 120 grazie a questa situazione. Che però non è poco. Senta Bertolotto, ci ricordi perché lei sta facendo questo viaggio per l'Italia, per dire cosa? Lo sto facendo perché le cose non vanno bene. Non è una questione di crisi, ma è una questione di paese che è andato e sta andando allo sfascio. Non ci sono idee, è dalle idee che partono i progetti, quei progetti parte l'innovazione, parte lo sviluppo, il lavoro, la ricchezza. Qua si va all'incontrario. Lei però ha incontrato varie persone ogni volta, cerca così di raccogliere, di tirare le fila dei problemi della gente comune, dal barista a chi ha un'impresa, ma anche le istituzioni, i sindaci dei piccoli comuni, tutto. Lei tira le fila di tutto, non so come fa, tra l'altro, se deve vivere due vite, perché quanta energia ha. E ha messo insieme 20 punti, che sono delle proposte. Vogliamo cominciare proposte. A elencarle le prime, perché sennò guardi, si fa notte. Senza le prime tre, sì. Le altre 17 e quelle a venire non si potranno fare. La prima è il lavoro, la seconda è una rivoluzione fiscale e la terza è il debito pubblico. Però lavoro, bravo, cominciamo a declinare il lavoro. Il lavoro. Abbiamo 1.600.000 disoccupati tra giovani e donne. Questi signori qua stanno a casa e continueranno a stare a casa con queste politiche. Lei abbiamo cosa propone? Visto che i tedeschi nel 2003 hanno fatto il mini job, imitiamolo. Il mini job? Mini job, non lo paga lo Stato, lo pagano le imprese. Io ho parlato con molti artigiani, professionisti, che non assumono perché dicono, se assumo una persona mi costa che non lo posso pagare. Sì. I mini job sono 450 euro proposti dalla Merkel, che l'ha rinnovato, Schröder l'ha fatto nel 2003, a 400 euro al mese per 20 ore settimanali, la Merkel l'ha rinnovato a 450. Guardi che ricordo. Bertolotto, quindi il mini job sarebbe uno stipendio mini per fare che cosa però in Germania, questo modello che lei vuol portare in Germania, anche in Italia? Ecco, un artigiano, un barista, un professionista può assumere un ragazzo, gli fa fare 20 ore al mese e gli dà 400 euro. 20 ore al mese? 20 ore, scusi, alla 20 settimana. Ore settimana. Quindi diciamo un impiego part-time, pagato con uno stipendio ridotto, sicuramente, ma che senza è già qualcosa. Tasse. Senza tasse. Senza tasse. Per cui io diciamo l'ho proposto a 600 euro. L'esborso sarebbe quello e lei dice insomma vediamo un po' se qualcuno viene allo scoperto e ci va. Gabardini da Luino, 600 euro per fare 20 ore al mese, tu ci andresti? La settimana per fare 20 ore alla settimana, peggio ci andresti? Lo stipendio al mese, le ore sono alla settimana, mi sembra di capire. Sì, è questa la proposta di Bertolotto. Il disastro mi sembra quello, però c'è la crisi euro. C'è la crisi, piuttosto che stare a casa e non guadagnare niente. Certo. Ma non ho capito se è una sorta di istituzionalizzazione del lavoro nero, nel senso senza tassi io ti do 400 euro, tu vieni 20 ore, è così? Bertolotto, risponda a lei. Ora guardi, Schröder è stata la sua rovina perché l'ha mandato a casa per questa proposta, però la Merkel l'ha rinnovato nel 2012 e questo rappresenta... Mi scusi, io mi affido a lei, Bertolotto, mi affido, un attimo solo, mi affido a lei. Questa cosa che la Merkel ha rinnovato nel 2012, cioè adesso in Germania esiste la possibilità di fare questa cosa qua che lei ha detto, il mini job? Certamente, 7.400.000 lavoratori tedeschi, grazie al mini job, portano a casa uno stipendio e vanno avanti. Poi ci sono delle regole interne. Uno che pigliava la disoccupazione, se piglia il mini job non può più prenderlo, ma se ha carico un familiare lo piglia il 50%. Hanno fatto delle regole. Certo. Secondo. Seconda proposta, fiscale. Prego. Posso andare avanti o... Facciamo la rivoluzione fiscale in un minuto, poi mi sa che ci salutiamo e andiamo avanti la prossima volta. Però ce la dica anche questa? La rivoluzione fiscale è una cosa importantissima. Bisogna azzerare, riportare la defiscalizzazione e la semplificazione. Defiscalizzare vuol dire che riduciamo le tasse, possiamo detrarre tutte le spese. E questo deve viaggiare di fianco alla semplificazione autorizzativa, perché se le due cose non viaggiano insieme non si crea lavoro, non si può parlare di defiscalizzazione. Dobbiamo ridurre le tasse, portarle a un 33%, detrarre tutte le spese così si crea il lavoro, semplificando i livelli autorizzativi. Va bene, sì, è più complicato parlare di fisco. Il mini job si capiva meglio, è più semplice come, come messaggio. Però avremo tempo la settimana prossima di andare avanti con i punti di Antonio Bertolotto, adesso in Bretagna a copiare qualche idea dalla Francia. Intanto grazie per essere stato con noi anche questa volta, buon viaggio, buon rientro. Quando io torna in Italia, Bertolotto, quando torna in Italia? Ah, torno sabato. Ah, ecco. Perché deve andare poi in azienda anche a vedere com'è la situazione. A piedi torna? Stavolta no. È un po' lunga. Va bene, dai. Buon viaggio, allora ci sentiamo presto. Sentiamo presto. Grazie, grazie. Questa era la situazione, il punto di vista strambo di oggi. 800 24 00 24. Facciamo una buona notizia, le informazioni dalla borsa e poi torniamo con gli ascoltatori. Gabardini, ci sei ancora? Piove ancora, lui no? Ci sono, in questo momento non piove. Ah, vedi, buone notizie anche da lì. Assolutamente, ottime. C'è molto vento. A tra poco. And now, the good news! A Milano, l'associazione Tempo Riuso realizza progetti di recupero degli spazi di edilizia abbandonati. Le aree dismesse in attesa di una nuova destinazione d'uso vengono temporaneamente affidate a canone calmierato o gratuito alle start-up, agli artigiani, agli studenti, ad iniziative culturali. Spazio alle idee. Si può fare l'attualità anche d'estate. Intanto abbiamo fatto subito una mini verifica a proposito di mini job dalla redazione con grandissimo tempismo, è tutto confermato, in Germania questa cosa esiste, ora io non so in che termini venga applicata al momento, come diceva Bertolotto, però è una prassi, insomma è una cosa che esiste. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, adesso con gli ascoltatori riprendiamo subito. E cominciamo con Maria Grazia che ci chiama dalla provincia di Varese. Buonasera. Buonasera. Prego. Allora, lontano dai discorsi politici di intrattenimento che state facendo, molto sì, interessanti, io volevo solo chiedere a Carlo Gabardini che parte svolgesse, che ruolo svolgesse nel film che sta girando dalle parti di Luino Cuvio, che dovrebbe essere il pretore dal libro di sì, Piero Chiara. Esattamente, in realtà il romanzo è il pretore di Cuvio. Al cast, alla presentazione del cast e non ho presente il personaggio. Questa ascoltatrice, grazie Maria Grazia, l'hai pagata tu Gabardini per farti fare lo spot? No, niente, stavo dicendo, buonasera, sono Carlo da Luino, volevo dire che siamo molto vicini, quindi assolutamente Lo so, no. Io sono Saronno. Ah, perfetto, però, il Maria mio Grazia... ruolo è l'avvocato Memeo. Sì. Che è un avvocato, diciamo, cornuto, si può dire? Sì, si può dire. Si può dire, si può dire. Ma ragazzi, è soddisfatta? Moltissimo. C'è dell'altro? No, ci venga a trovare sul set, che io sono qua anche sabato e anche la settimana dopo quella di Ferragosto. Trasmissione, bravissimi. Grazie, grazie. Andiamo, grazie. Vabbè, questa era un'intrusione, i fatti quasi privati. No, privati no, ma insomma. Era mia mamma, in realtà, chiedo scusa. Giovane però. Cosmo da Milano, buonasera. Buonasera dottore, Cosmo Mitrano, Pro Coordinamento Opinione Operativa, chiamo ora Milano, via Durini, angolo San Babila, ora capirà il perché di questo. No, non abbiamo capito nulla, riparta, rifaccia la partenza. Via Durino, angolo San Babila, ha dato l'indirizzo. Ma di cosa? Cosmo Mitrano, Pro Coordinamento Opinione Operativa, parole concetto chiaro, no? La chiamo da via Durini, angolo San Babila, le dico subito il perché, perché se le volesse io in 20 minuti arrivo là e do la documentazione di quello che sto per dire. Allora, innanzitutto la puppato, disgustosa, squallida, nauseabonda la sua pretesa di interdire democrazia e carta costituzionale. Io non sono un elettore di Berlusconi, no? Però mi sento offeso, indignato da una persona che si permette di sindacare le scelte dell'elettorato che deve essere sovrano, come la Costituzione dice, invoca, e purtroppo non è così poi nei fatti. Gliel'ho detto anch'io alla Puppato che la pretesa di scegliere, fra l'altro da parte del PD che ha difficoltà a scegliere il suo di candidato, questo è anche buffo. Però Cosmo, lei ha detto che aveva dei documenti per dimostrare che cosa? Perché la Stato dovrebbe, oltre a questo, preoccuparsi sì. dei suoi sodali di partito così chiamato democratico, che a Milano hanno da un giorno all'altro sottratto l'intero sussidio minimo vitale definito dallo stesso comune per su proposta dell'assessore Maiorino, che all'unanimità la giunta ha deciso appunto di sottrarre l'intero minimo vitale del trascorso periodo 7 luglio 7 agosto ieri, e invece 7 agosto ieri il percepimento del sussidio per il nuovo periodo delle persone 3.300 anziani in particolare stato di difficoltà che sono andati allo sportello neppure l'hanno trovato oggi fortunatamente, quelli che sono sopravvissuti. Ha capito cosa è arrivato a fare Maiorino e l'intera giunta del comune di Milano, sodali appunto per la gran parte dell'appuppato? Quindi io di questo ho tutti i documenti, 7 pagine, gliele porto adesso, se mi dà la mail, gliela mando anche per mail, e vorrei che domani lei dedicasse uno spazio per verificarmi, può chiamare, può interpellare Maiorino, che poi è una sorta di bugia, che impari l'italiano Maiorino, perché fra l'altro dice: ma abbiamo adesso deciso che potete recuperarlo questo periodo che non vi abbiamo corrisposto, e fate, andate agli sportelli. Va bene Cosmo, io mi sono un po' perso, ammetto la verità, stavo controllando la notizia. Vuol chiudere così in maniera elegante con altri 20 secondi il senso del suo intervento? Torniamo sull'attualità. Cose in 20 secondi. Il primo, sì, che chiunque volesse i documenti oltre lei, che vengo a portarli, è sopranipensieri@yahoo.com. Questo non ce ne frega quasi nulla. Poi? E poi l'altro, che la democrazia innanzitutto, quindi non ci deve essere, in una settimana si stabilisca, sì, di escludere qualunque ipotesi di incandidabilità, perché è assolutamente assurdo che ci sia qualcuno che si metta al di sopra del popolo. Quindi, va bene, questo l'abbiamo anche capito. Anche un pluricondannato, se il popolo vuole come rappresentante, deve, sì, essere eletto, nessuno può proibirlo e impedirlo. Grazie, Cosmo. Grazie. Allora, andiamo a... dove andiamo? Luca dalla provincia dell'Aquila, buonasera. Eccomi qua, buonasera. Prego. Senta, dunque, non è facile, diciamo, essere al livello di Cruciani e Parenzo, quindi diciamo che anche se lei ogni tanto ha delle cadute di stile, gliele perdoniamo, insomma, anche da solo, tra l'altro, quindi non può competere. Però le volevo dire una cosa, ieri sono... Io sono qui, sono qui da Luino. Attenzione, perché Gavardini sembra che non ci sia, ma c'è. Mi sente? Sì, la sentiamo, Luca, sì. Io sono rimasto un po' male perché c'erano un paio di ascoltatori, sì, del nord, a volte non si sanno esprimere molto bene, non sanno esprimere i concetti, quindi mi è dispiaciuto che lei li ha liquidati a un certo punto dicendo che non capiva quello che dicevano. Allora, quello che dicevano... Cosa avrei dovuto fare, scusi Luca, avrei dovuto farglielo dire 20 volte finché non si capiva? Ma volevano semplicemente dire che, due punti, sì, bisogna cominciare a licenziare i dipendenti pubblici. Cioè, non so se lei ora ha capito la frase, ha capito? Detta così l'ho capita, grazie. Perfetto. Allora, il concetto qual è? Poi? Il discorso è molto, molto semplice. È una cosa molto importante, cioè, ci tengo a da portavoce di questi due ascoltatori, perché è un problema fondamentale di questo paese, che viene addirittura prima dell'evasione fiscale, della corruzione, di tutti i problemi, della Chienge, delle cazzate su Berlusconi. È la cosa fondamentale, perché quando non funziona, diciamo, la macchina pubblica, quando tu vai davanti a uno sportello e la persona che sta dall'altra parte non fa da esempio, tu ti senti autorizzato a fare qualsiasi cosa di negativo. Questo è il concetto, a evadere, a essere corrotto, a essere incivile. Questo è il, sì, concetto. Va bene, quando grazie Luca, grazie anche per il suo intervento. Devo dire che sono cose che abbiamo già sentito in passato. Se io dico o faccio finta di non capire, a volte anche perché secondo me si trattano argomenti che magari sono fuori all'attualità, allora per dare più interesse a quello che si racconta, per esempio questa notizia qua. Saccomanni, il ministro dell'economia, ha detto una parola sull'IMU, ha detto: l'abolizione totale dell'IMU sulla prima casa avrebbe un effetto fortemente regressivo di cui beneficerebbero i contribuenti più ricchi, costerebbe in termini di gettito una perdita di 2,4 miliardi di euro, e quindi il governo non è intenzionato ad abolire l'IMU, a quello che ha detto Saccomanni in toto sulla prima casa, ed era invece la richiesta del PDL, e anche se anche ieri il vice ministro Fassina aveva ribadito che sull'IMU l'ipotesi era quella, cioè degli sconti, ma non l'abolizione totale sulla prima casa. Così Saccomanni. Salutiamo Giampiero Mughini, buonasera. Bentrovati. Bentrovato a lei Mughini, con grande piacere lo ospitiamo. Oggi ha scritto un articolo. Diamoci del tu, che è più semplice. Sì, tra colleghi si fa così, però siccome non ci conosciamo dal vivo, allora io ero partito con lei. Diamoci del tu, per me va benissimo. Oggi hai scritto un articolo sul Libero in prima pagina: confesso che ho evaso. Un attimo, no. Questo è il titolo che hanno dato. Adesso mi fai una polemica sul titolo del tuo articolo. No, voglio dire, è un buon titolo. Sì. Io dico semplicemente, come sanno tutti gli italiani leali, sì, sanno tutti gli italiani leali, siccome adesso arriva in casa degli italiani leali e non leali, una lettera, un modulo inviato dal fisco in cui dice: avete mai pagato in nero qualcuno? Certo che sì, certo che sì. Io per esempio ho pagato una o due volte in vita mia, e spiego perché soltanto una o due volte in vita mia, degli artigiani in nero. Perché ovviamente se uno si trova, arriva l'idraulico, eccetera, oggi un idraulico costa più o meno quanto un cardiochirurgo e l'idraulico ti dice non facciamo la fattura, eccetera, io penso che un pensionato, ma anche una persona normale, anche un operaio metalmeccanico, anche uno iscritto alla CGIL, per dire, Ragamuso parla sempre male dell'evasione fiscale, gli dai i soldi in contanti, perché se uno non può dedurre quelle spese, sì, è ovvio, insomma, c'è un'ipocrisia su questo argomento. Ecco, però, sì, perché... ma l'ipocrisia nota a tutti. Spieghiamo ancora di più questo antefatto, cioè questa lettera dell'Agenzia delle Entrate che sta arrivando nelle case degli italiani, che io leggo dall'articolo, dunque dice, è un questionario che addirittura viene dal 1972, riesumato nel 2006 da Visco e adesso di nuovo tirato fuori. Allora, pare che arrivi a chi ha avuto un lutto in famiglia, chi si è appena sposato o cose di questo genere, cioè se ci sono degli eventi che prevedono delle spese necessariamente. Allora le domande sono: avete usufruito di servizi di un fotografo? Avete acquistato confetti o bomboniere? E via discorrendo. E si chiede se c'è stato un pagamento in nero e in caso di indicare i dati anagrafici della persona. Quello che dice Mughini è: se io ho pagato in nero qualche cosa, vi pare che poi in questa lettera vado a dire... Ma mi pare del tutto evidente, ma è anche stupido. A parte il fatto che il pagamento in nero nasce da varie circostanze. È un esempio amaro che io faccio sempre. Mia madre è morta 10 anni fa e mia madre viveva in Sicilia, essendo siciliana. Naturalmente io mi sono precipitato lì a pagare tutte le spese, eccetera, come era ovvio. Se avessi avuto con me una Panzerdivisione tedesca armata fino ai denti, forse sarei riuscito a farmi fare una fattura, capisci? Perché altrimenti era impossibile, era praticamente impossibile. Ma non sono sicuro che una Panzerdivisione armata fino ai denti sarebbe riuscita a ottenere in quel contesto socio-economico una fattura. Un altro esempio faccio sempre, spero di non annoiarti, una volta ho comprato il tappetino del computer su cui fare scorrere il topolino, no? Allora sono andato lì, era una cifra irrisoria, ma io per tigna chiedo la fattura. No, dico, voglio la fattura. Ci ha messo mezz'ora a farla, perché non aveva mai fatto una fattura in vita sua. Allora, Italia, renitente. Io ti voglio fare una domanda, però, perché intanto voglio leggere un passaggio per dire, no, perché sennò poi dice, ma Mughini si vanta di non... No, dice, sono orgoglioso di pagare le tasse e di essere corresponsabile della comunità italiana di cui faccio parte. Quindi ci sono delle precisazioni notevoli. Però io ti voglio chiedere, come mai questa lettera, allora, l'Agenzia delle Entrate, se come tu dici, ed è abbastanza condivisibile, almeno io sono d'accordo su questo, è inutile, perché lo fanno? Per propaganda? Per far vedere che il fisco è attivo? Oppure perché qualcuno magari si diverte qua e là a denunciare, magari pur avendo usufruito? Credo, sai, in Francia denunciavano gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, mi sembra difficile che oggi gli italiani denuncino gli idraulici, non credo, assolutamente. Gli idraulici o i professionisti, perché ci sono professionisti che tu gli dici, sempre con la Panzerdivisione armata fino ai denti, la fattura non te la fanno, perché oggi è una lotta molto aspra per la vita e per la morte, lo si deve capire. E naturalmente solo un imbecille, io ho appena sentito un cretino di cui non voglio fare il nome, dico soltanto che è un leader di Rifondazione Comunista che si augura che vengano aumentate le tasse a quelli che dichiarano più di 70.000 euro lordi l'anno, il che significa 3.000 euro netti al mese. Lui si augura perché è lui che è comunista, è comunista. Ma che è Ferrero? Ferrero? Hai capito? Vai! Però c'è un'altra dichiarazione di Ferrero sulla quale invece sono in accordo oggi, quella relativa alle pensioni d'oro. Hai visto che è uscita questa cosa? Ma perdonami. 90.000 euro al mese. Quella da 91.000 euro al mese. Beh, ma quello è un caso molto particolare, ben inteso, un caso che sta tutto nella sono follie, legge. Però lo sai quanto ci costano i 100.000 pensionati d'oro italiani? Ma non è no, 13 miliardi l'anno. Così che tu devi ragionare, questo signore dei 91.000, che è una cifra che fa paura, ma di questi signori non è che ce ne sono 100, durante la sua carriera professionale, che è stata eccezionale, eccezionalmente positiva, come dirigente lì della Telecom, eccetera, quanto ha pagato di contributi? Questo è il punto. Qual è stato il rendimento? Perché se uno però paga sai che adesso è cambiato il regime. Adesso 10.000 ha diritto a un'altra, o no? Adesso però siamo noi a pagarci la pensione con i contributi, mentre le vecchie pensioni, io credo che questi qua sono andati in pensione, avranno pagato dei contributi, però la pensione è commisurata a livello dello stipendio. Naturale, ed è una follia. Come tu sai, il sistema retributivo non c'è più. Esatto. Naturalmente alcuni di quelli che lavoravano tanti anni fa hanno usufruito del sistema retributivo. Però non credi che bisognerebbe fare qualcosa? Cioè mandargli i carabinieri? Non lo so, un po' come il discorso facevi prima, la Panzerdivision, cioè studiare un meccanismo per drenare un po' di ricchezza. Ma il problema italiano del nostro debito pubblico è risolvibile se noi fuciliamo l'ex dirigente della Telecom? Però guarda che se la cifra che ha dato oggi il Corriere è esatta, si tratta di 13 miliardi di euro l'anno, tutte queste pensioni sopra non so che cifra, ma cifre molto alte, sono 100.000 persone. E sono non sono pochi. 100.000 persone a far che cosa, scusa? A prendere, adesso dovrei ritrovare l'articolo. Definiti super pensionati. Non 91.000, ma pensioni, diciamo, a quel numero di cifre lì, cioè da 10.000 euro in su, mettiamo. 10.000 innanzitutto netti o lordi? Io non so se queste cifre sono nette o lordi. Sono lordi. Sì, però sai, sulle 10.000 lordi sono 5.000 al mese. Ma quanto hanno pagato questi signori per avere quella pensione? Non lo so, subito, però siccome non ho nessunissima difficoltà, anzi, io dico sempre che quello che uno ha, riceve, eccetera, lo dovrebbe mettere nel biglietto da visita. Ho una pensione da 78.000 euro lordi l'anno. Ti dico quello che ci ho pagato sopra, perdonami. Ti dico quello che ci ho pagato sopra. Non è che deve venire adesso Ferrero a rompermi le balle. Non è questa la cifra, non è questa la soglia. Adesso mi manca l'articolo sotto mano, però allora si parla di altre soglia, cifre. Non lo so qual è la soglia. Lì si parlava di 100.000. Il problema italiano non può essere minacciare 5-10.000 no, persone. Non si possono minacciare pensioni come la tua, però pensioni come quella del primo in classifica, secondo me, sì, ma quella in qualche modo in effetti però è pazzesca. Però detto questo, lui è nella legge. Certo, questo sì. È la legge che dovrebbe cambiare, però poi si sa, ci sono problemi di costituzionalità perché le leggi retroattive non si possono fare, ci sarebbero ricorsi, evidente. In Italia sarebbe questo. Ma questo è evidente, se le leggi si potessero cambiare ogni autunno, certo, ci vuole anche la continuità, come si dice, del diritto. Vorrei chiederti anche un'altra cosa, prima di salutarci. Non so se hai seguito, non so se sei in vacanza, se hai seguito questa mini polemica sul reality della Rai Mission, tu che sei un uomo televisivo. Naturalmente non ne so nulla, nel senso che ho letto i giornali, sai, io non farei uno scandalo perché, insomma, qui vedo che è sorto uno scandalo. Io reality non ne ho mai visti in vita mia, quindi figurati se vedo questo sui poveri sciagurati. Sui rifugiati. E adesso questo reality era stato impostato anni fa, quindi se qualcuno ha detto no è colpa della Boldrini. Però francamente mi sembrano tempeste in un bicchiere d'acqua, guarda. veramente abbiamo, noi rischiamo di andare fra due mesi alle elezioni forse più inutili della storia della democrazia. Ah certo, se non cambia legge elettorale. Sì. E stiamo lì a pensare a reality. A reality dove c'è Albano e dove... No, non mi sembra un grandissimo problema. Io naturalmente non lo vedrò, ma non ho mai visto un reality in vita mia. Detto questo, non mi sembra che sia... stanno lucrando sulla sciagura, non lo so, non so, questo si può dire dopo, non prima, però francamente, di tempesta in un bicchiere d'acqua, non sei anche tu un po' stanco? No, sicuramente, sai però cosa succede? Che tutto quello che va in televisione si amplifica perché lo vedono milioni di persone. Eccessivamente, perché io sai che non la guardo mai, la televisione, eccetera, eccetera, ne ho fatta tanta, ma guardare non guardo mai, io non ho nessun interesse. Va bene, Mughini, spegniamo, spegniamo questa polemica. Grazie per essere stato con noi, buona serata, è stato un piacere. Grazie a voi, buon lavoro. 19:52 minuti, la regola d'ingaggio che non consente a Carlo Gabardini di parlare con l'ospite stata rispettata. Avrebbe però, diciamo, sono Carlo da Luino, scusi, era meglio se ti salutavo prima, perché ti ho fatto stare in attesa, tu sei stato gentile che sei rimasto in attesa, in realtà ti sei assorbito. Ho ascoltato molto volentieri l'intervista a Mughini, però direi che adesso vi devo salutare perché mi stanno rimpatriando a Milano. Veramente. Temo troppi problemi tecnici. Vabbè, la buona notizia è che domani dovresti essere, io uso il condizionale, da noi in studio, speriamo. Sì, certo che ci sarò. A riprendere. Pensavo che dicesse la buona notizia che finalmente attacchi il telefono, era peggio. No, ma ti pare. Siamo in astinenza. Grazie Carlo, buona serata, buon viaggio. Grazie a voi e saluto anche chi ci ascolta in podcast, anche perché anch'io ascolterò in podcast avendo sentito solo un pezzo della trasmissione. Ciao! Ciao, la tua frase culto sul podcast 800240024. Riprendiamo a sentire i vostri interventi con Gastone che ci chiama da Terni. Buonasera Gastone. Buonasera. Prego. No, io mi stavo, prima stavate parlando del sindaco di Firenze. Sì. Di Renzi, per l'esattezza. E ogni volta che sento nominare Renzi mi viene in mente, ma chi era costui? Perché la famosa frase di Don Abbondio. Mm-hmm. Perché in realtà io non so che tipo di studi abbia fatto questo signore e quanto sia valido, potrebbe esserlo tantissimo, ma non lo so, nel senso che pur essendo molto giovane mostra di essere perlomeno nelle intenzioni, no, di avere l'intenzione di salvare la patria, nel senso che si comporta un po' come un salvatore della patria, come l'uomo del destino, non so, forse questa è magari una cattiveria che non merita. Vabbè Gastone, però certo che non si è ancora messo alla prova nella politica nazionale più di tanto, ha fatto le primarie, le ha perse con Bersani, però i sondaggi spesso, per quello che valgono, lo danno, diciamo, in cima o molto in alto in gradimento come possibile leader per il futuro. È da lì che si parte, da questa premessa. Poi il resto è chiaro che è tutto da dimostrare. Il gradimento della gente, voglio dire, io non sono di sinistra, quindi non metto becco nelle intenzioni, diciamo, e nei gradimenti di quella parte politica che rispetto, ovviamente. Voleva aggiungere qualcos'altro, Gastone, a parte Renzi? No, volevo soltanto sapere, ecco, un po' di più su questo sindaco. Ah, vabbè, adesso faremo una puntata di biografia sul sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Francesco, dalla provincia di Viterbo, buonasera. Allora, buonasera, scusate, un intervento. Sentire Mughini è sempre piacevole. Non ho capito niente, ma... Sentire Mughini è sempre piacevole. Ah, Mughini, sì, messaggi anche... no, oddio, qualcuno anche critico, però per lo più positivi, per lui, sì. Allora, io per un intervento che ha fatto, anche su una ripetizione, il Presidente della Camera, Boldrini, paragonando, e anche Napolitano ha fatto, i nostri morti di Marcinelle, paragonandoli agli migranti che vengono in Italia su balconi. Tralasciando la differenza che gli italiani che andavano in Belgio erano sottoposti a contratti di lavoro, trattati malissimo, non avevano le stesse tutele che avevano i belgi, anche se poi a Marseille morirono anche altri belgi. Quindi il paragone lo vedo un po' tirato per la giacchetta e soprattutto serve, come sempre succede in Italia, a far passare le persone che vengono come nostri simili quando andavamo all'estero. Non è così, noi andavamo sotto contratto, non andavamo in genere, tranne in alcuni casi, a delinquere, e se non ci comportavamo bene venivamo presi e riportati in Italia, in malo modo, oserei dire. Ho delle esperienze differenti, ovviamente io sono più giovane di Marcinella, ho 45 anni. Quindi sono dei discorsi, secondo me, demagogici, diciamo così, in bassa statura, per farci credere che chi viene in Italia per delinquere, perché gli emigranti che vengono, la maggior parte viene per delinquere, o almeno va bene, mi sembra chiaro, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro oppure no, fra l'altro siamo anche sul crinale della pausa, quindi va bene, diamo solo questa notizia che stavo leggendo proprio adesso ed è relativa a una dichiarazione del segretario del PD Epifani, che in apertura della direzione nazionale del PD ha detto: le sentenze si rispettano, si eseguono. E che non è, a dire la verità, una novità, ma non c'era, si vede, altra notizia da dare sulla direzione del PD che è questa. 800 24 0024, torniamo tra un attimo. E now the good news. Maiolati Spontini nelle Marche è un comune a debiti zero, tutto merito della discarica. I comuni vicini pagano per lo smaltimento dei loro rifiuti, l'amministrazione comunale incassa e reinveste in biblioteche, parchi attrezzati e in una scuola all'avanguardia. In pochi anni sono stati estinti mutui per oltre 2 milioni di euro. E non chiamate la monnezza. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 0024, riprendiamo subito a sentire i vostri interventi. Cari ascoltatori, intanto appunto sta iniziando la direzione del PD, ma sentiamo i titoli di Sky TG24. Il governo vara la stretta sul femminicidio, pene più severe con arresto in flagranza e possibilità di cacciare i mariti violenti. Il PD riunisce la direzione per un confronto sull'appoggio al governo. Renzi chiede di fissare la data del congresso. Il decreto del fare all'ultima tappa della Camera e la BCE parla di graduale ripresa dell'economia a partire da quest'anno. Saccomanni presenta 9 proposte per recuperare fondi dall'abolizione dell'IMU. La tassa va eliminata, basta balletti, dice Brunetta. Via il dicastero inutile della Chienghe, tuona Salvini. Vogliono abolirlo, replica il ministro, allora ci diano i soldi del referendum. Continuano gli sbarchi di migranti nel canale di Sicilia, solo oggi oltre 500 gli arrivi tra Siracusa e Lampedusa. Terrore a Dallas, folle dalla caccia, l'ex compagna compie una strage, spara sulla folla e uccide 4 persone. Il caldo africano dà una tregua al nord con temporali tra Lombardia e Piemonte, la fa resiste ancora al centro-sud. Un minuto dopo le 20. Questo Sky TG24, torniamo ai vostri interventi con Claudio che ci chiama da Macerata. Claudio, buonasera. Buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi scusi, se ho levato l'auricolare. Bravo. Volevo dire che la tassazione attuale porta a noi a fare i saturi di tasse per lo Stato. Siccome l'acqua e il riscaldamento è un bene primario, perché non dà solo il netto a noi e il resto lo veste privati? Senza che noi prendiamo la metà del malloppo, poi lo ripassiamo allo Stato. Io ho la partita IVA da 30 anni, quindi... Vabbè, Claudio, questo voleva dire lei? È semplice. Sì, vabbè. Claudio, grazie. Se no passiamo sempre noi da ladri, ecco. Sì, va bene. Cos'è che mi vogliono indicare dalla redazione? Non ho capito, non importa. Ah, abbiamo il TG1, sì. Sentiamo i titoli del TG1. Femminicidio, via libera al decreto legge, arresti e pene più severe, fuori di casa il coniuge violento, Letta, impegno mantenuto. Il Premier, governo avanti, determinatissimo, PD su Berlusconi, no a sostegno ad personam, PDL dicano se vogliono andare avanti. Nuovo attacco della Lega, referendum per abolire il Ministero dell'Integrazione, la ministra Cécile Kyenge in diretta al TG1. Il ministro Saccomanni presenta le nove ipotesi per la riforma dell'IMU. Abolire la prima rata dell'imposta costa 2,4 miliardi di euro. Ultimo saluto ad Alice, uccisa a Los Angeles. In Messico, italiano in viaggio di nozze muore in un incidente stradale grave la moglie. Pirata della strada uccide un motociclista vicino a Roma. Il romeno arrestato era ubriaco al volante e aveva la patente sospesa. Incendi e emergenza in Friuli Venezia Giulia per un lungo fronte di fuoco, fiamme anche in Sardegna dove sono attivati elicotteri per il controllo continuo dell'isola, ma l'ondata di caldo anomalo sta per finire, prime piogge a nord-ovest. Allora, chi andiamo a sentire? Sara che ci chiama da Padova, buonasera Sara. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, senta, io volevo dire, in merito a quello che ha detto il signore sul mini job, che sarebbe una roba che andrebbe benissimo per gli artigiani come me, io ho una sartoria, sì. E per prendere una ragazza ed insegnargli, lei capisce che ci vuole un po' di tempo, pronto? Sì, sì, la sentiamo bene. Ci vuole un po' di tempo, sì. Però con gli attuali contratti di lavoro... Sara, sentiamo male, grazie. Vabbè, non so se vogliamo provare a recuperarla, però è riuscita a dire che apprezza la proposta di Bertolotto, il nostro imprenditore in giro per l'Italia, a raccogliere proposte e poi a girarle, credo, anche al governo. Non so se ha scritto una lettera anche lui, però la prima proposta di cui ci ha parlato stasera era proprio questa del mini job. Che la signora Sara da Padova apprezzava, cioè sostanzialmente una forma, diciamo, di lavoro part time, 20 ore al mese a settimana, con uno stipendio mini, 600 euro, detassato completamente, che quindi potrebbe invogliare le aziende, insomma, a farlo. Meglio che stare a casa senza far nulla, è questo il senso della proposta. Marco da Reggio Emilia, buonasera Marco, tocca a lei. No, non ci sente Marco. Allora facciamo Gaetano che ci chiama da Napoli. Gaetano? Eccomi. Eccolo. Buonasera. Buonasera. Volevo dire, per quanto riguarda lo scandalo delle 10 persone più pagate... Gaetano, se ha viva voce lo toglie per favore, perché la sentiamo non del tutto bene. Ho tolto. Eccolo. Mi sento adesso? Adesso sì, va bene. Stavo dicendo, per quanto riguarda le 10 persone più pagate d'Italia, sì. Per quanto riguarda le pensioni, poi per quanto riguarda il presidente Letta che ha detto ma che... per quanto riguarda le pensioni cosa voleva dire? È uno scandalo, cioè i diritti acquisiti non si possono togliere, scusate. Lo scandalo è che qualcuno vuole diminuire queste pensioni. Scusi, ma non crede che 90.000 euro uno potrebbe dare un contributo, visto la situazione italiana? Cioè 90.000 euro al mese stiamo parlando. Appunto, se queste persone hanno pagato anche tante tasse, no? Ma no, cosa hanno pagato? Guardi che col sistema, scusi, però facciamo un chiarimento su questo, col vecchio sistema in cui si andava in pensione prima, non è che si pagavano tanti contributi e si aveva tanta pensione, la pensione era parametrata allo stipendio, quelle sono persone che avevano uno stipendio altissimo e a prescindere dai contributi che hanno versato, che non sono quelli lì della pensione che adesso prendono quella pensione. Per l'appunto hanno già guadagnato abbastanza, non possono regalare queste pensioni alle persone più povere che hanno bisogno. Sì. Ho capito male io. Allora va bene, Gaetano. No. Poi vuole dire qualcos'altro? I diritti acquisiti, non si può fare una legge che tutte queste persone i diritti acquisiti da chi? Da loro. Vabbè Gaetano, grazie, non abbiamo capito se lei sta da una parte o dall'altra, non importa. Vincenzo dalla provincia di Monza, buonasera. Pronto, buonasera. Eccolo. Volevo intervenire in merito al, se era possibile, in merito all'atteggiamento che in questi giorni ha assunto il centrosinistra in relazione alla sentenza contro Berlusconi. Io da lettura del centro-sinistra... Scusi, se la interrompo un attimo, perché c'è il ministro Qian Zhoqiang al TG1, potrebbe essere interessante sentirla. Dalla Lega continuano prese di posizioni molto dure, questa volta non attacchi personali, non insulti nei confronti della sua persona, ma una critica di merito sull'opportunità di mantenere in vita il ministero che lei guida. Lei cosa risponde? Sì, mantenendosi sempre sul merito, io credo di rovesciare il ragionamento di Salvini dicendo perché non mettere quei soldi che vuole spendere per il referendum per rafforzare le politiche dell'integrazione e magari anche per fare una campagna molto forte contro il razzismo. Ecco, ma perché è importante mantenere in vita il ministero che lei guida? Proprio per già l'idea dell'integrazione è quella che deve guidare tutte le scelte, tutte le politiche, una politica di base basata proprio su un'idea di integrazione e di inclusione sociale. Questa deve essere il faro di tutte le politiche, quindi un collante fra tutte le politiche. Quindi credo che questa sia la risposta. Vincenzo, prego, l'abbiamo lasciato lì appeso. No, sia tranquillo. Vada. Volevo semplicemente dire che io mi sento da elettore del centro-sinistra, sia chiaro, indignato non tanto da Brunetta che sbraita, non tanto dalla Biancofiore, dalla Santanchè, ma dal silenzio colpevole che il mio partito, il mio schieramento ha assunto in questi giorni in merito alla questione. Io sono un elettore del centro-sinistra ormai da tanto, io per 20 anni, anche prima che fossi elettore, mi sono sentito raccontare la storia che dall'altra parte c'era un farabutto che non meritava assolutamente di guidare questo paese e che era bene votare per il centro-sinistra dove invece c'erano i virtuosi. Nel momento in cui questa cosa è stata acclarata da una sentenza, nel momento in cui c'è il diritto, pur essendo garantisti, perché c'è una sentenza appunto passata in giudicato al terzo grado di giudizio, in cui si dice che questa persona ha evaso, in cui si dice che questa persona che ha preteso di governare un paese evadendo nel fisco, reato gravissimo, forse più grave addirittura di quello della prostituzione minorile, eccetera, il più grave, il più infame che ci possa essere, in questo momento in cui davvero ci si aspetta che il centro-sinistra attacchi e dica che questa persona non è degna di stare in Parlamento, che questa persona deve essere allontanata, che non ci può essere nessun inciucio, nessun accordo con questa persona, bene, in questo momento non si può sentire altro che un Epifani timido che dice Berlusconi accetti con serenità la sentenza. Questa è l'unica cosa che un elettore del centro-sinistra si deve sentire dire dai suoi leader in questo momento, quando invece tutti, credo, si aspettino appunto una presa di posizione. Sappiamo adesso, perché una sentenza l'ha detto, che questa persona è un evasore, sappiamo che questa persona è indegna ed è stata indegna di governare il nostro paese. Vabbè. Secondo me è colpevole l'atteggiamento del centro-sinistra, non tanto di Brunetta che si aspetta ormai che faccia anche ricorso a Strasburgo, non è questo il sa, Vincenzo, sono al governo con il PDL, quindi sono, ma non sono in imbarazzo. Non sono al governo PDL, non possono, signore. Caro, non possono stare al governo PDL perché per 20 anni ci hanno detto che questo non era possibile. Se prima c'era l'obbligo di essere garantisti, eccetera, adesso non c'è più questo obbligo, non ci possono prendere per i fondelli, stare al governo con questa gente e poi quando ci sarà il momento delle urne dire che questa gente è il diavolo. Siamo stanchi di queste. Ecco anche perché la gente vota Grillo. Io non voterò mai Grillo, ma capisco anche questo. L'atteggiamento ormai che è fastidioso, io non posso più guardarle ste facce del centro-sinistra. Va bene, grazie. Grazie Vincenzo, buonasera. Serata. Ambrogio da Milano. Ambrogio? Sì, buonasera. Prego. Purtroppo devo farle un appunto. Lei mi sembra molto, molto fazioso di parte e l'altra sua spalla è quasi peggio di Parenzo. Perché ho sentito diverse sere che quando tac lei interrompe, come questa sera ha interrotto 4-5 persone. Guardi, non la interromperò, lei potrà parlare fino alle 20:30. No, non mi interessa parlare. Sì. No, non mi interessa parlare. È lei che, anziché Radio di Indutria, mi sembra Radio Radicale. Da un po' di tempo in qua. Se per voi sta bene, va bene tutto. Siamo in linea con tutte le altre idee. Vabbè, io non, cosa devo commentare, Ambrogio? A chi piace, niente. A chi non piace, io interrompo alcuni ascoltatori per dare più ritmo, per non dare più ritmo. Con alcuni si riesce a discutere, con altri meno. Ci proviamo. Che dobbiamo fare? Stupido, Come? Non mi sembra, li tratta un po' da stupidi. Non mi sembra il caso che lei debba tagliare sempre quando le fa comodo. Comunque, fa parte del lavoro che faccio. Grazie, Ambrogio. Vuole aggiungere qualcos'altro sui temi della serata o no? Parlarne. Ecco, rinunciamo, grazie. È lei che ha chiamato però, è Paolo da Treviso, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione, fa piacere sentire una persona educata e civile che parla alla radio, chi vuole capire capisce. Io volevo intervenire sulla lettera del Ministero delle Entrate agli italiani per chiedere se qualcuno ha pagato qualcun altro in nero. La trovo di una comicità enorme, come se chi governa non sapesse dov'è l'evasione, dove andare a cercare l'evasione. Mi domando che lavoro fa la Guardia di Finanza. Eh sì, è vero, però quello che lei dice, che è ironico, ma forse è anche in parte vero, cioè non sanno più da che parte girarsi, da che parte pigliarla questa benedetta evasione fiscale, e forse proprio perché l'Italia non è strutturalmente capace di uscire da questa situazione, perché le tasse sono troppo alte, perché la gente continua a non pagarle sotto il naso di tutti, escono fuori anche delle cose così, che sono d'accordo con Mughini, sembra abbastanza inutile, ecco. Dopodiché, volevo dire questa cosa. Cioè, questo per dire che probabilmente davvero non sanno che pesci pigliare e provano in tutte le direzioni, sparano in tutte le direzioni. Sì. Non credo che sia così. Comunque, e come crede che sia, invece, lei? Allora, io credo che ci sia. Allora, i ministri cambiano, i governi cambiano, sì? I ministeri però restano. E quindi? Chi fa le leggi, chi applica le leggi, chi fa applicare le leggi? I ministeri, e le quindi? Stesse persone. E quindi, secondo me, ci sono delle lobby di potere ben avvinte al potere che pilotano l'Italia. E quindi, torniamo alla lettera del fisco? Allora, alla lettera, ecco, secondo me è una presa in giro. È una presa in giro perché... Ma la lobby che c'entra? Scusi, lei ha tirato in ballo le lobby? No, la lobby del potere, quella che sta dentro i ministeri. Sì. Quanti ministri abbiamo cambiato e sono riusciti loro a cambiare le cose? No, perché? Perché vanno a dirigere un ministero dove ci sono le... Sì, questo l'ha già detto, ma arrivi alla lettera, cioè passi dalle lobby alla lettera. Allora, alla lettera, non sanno che pesci pigliare, benissimo. Sì. Allora, domandano, ti sei sposato? Per caso ti sei fatto fare la ricevuta fiscale al pranzo di nozze? Ma ci prendiamo in giro. Quante ricevute fiscali vengono fatte in un pranzo di nozze? Vabbè, la lobby però lei non me la vuole spiegare questa cosa della lobby. Allora, la lobby, intendo dire questo, nei ministeri ci sono delle persone che hanno delle posizioni di potere, sì? E lo esercitano. Per continuare a esercitare questo potere devono dare al paese il messaggio che qualcosa si fa, mentre in realtà non si fa nulla. Oh, questa finalmente l'ha detto. Grazie Paolo, abbiamo capito. Adesso facciamo una pausa per il traffico, prima una good news, traffico, e poi torniamo di nuovo con gli ascoltatori. 800 24 00 24. And now the good news. Sulle colline del Piceno è tornato a fiorire l'anice verde. La pianta, riscoperta da un'agronoma del luogo, è l'ingrediente principale dell'anisetta Meletti, un antico liquore da aperitivo tornato in produzione. Per la raccolta sono state impiegate persone di una cooperativa che cura le dipendenze. È proprio il caso di dire alla salute! Si può fare l'attualità anche d'estate. Intanto c'è una dichiarazione, un'altra di Epifani dalla direzione nazionale del PD. Non si può, dice, contrapporre la legittimazione data dalla rappresentanza politica al principio di legalità e così superare il rispetto che si deve alla divisione dei poteri. Questo Epifani dalla direzione del PD. Giuseppe da Bologna, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Prego. Salve, io sono il presidente di un'associazione di studi economici, si chiama la Scuola Liberale Austriaca Fomisos di Bologna e sono anche il coordinatore di un comitato pro Renzi. Abbiamo presentato già un mesetto circa una proposta economica che potrebbe, secondo i nostri studi, trovare le soluzioni alla situazione attuale. Cioè, sostanzialmente noi sosteniamo lo Stato, che chiaramente ha onorato subito al cittadino, deve dare subito al cittadino quello di cui ha bisogno. Poi il cittadino, se può, quando non ha più bisogno, restituisce quello che ha avuto in più. E mi ricollego alle pensioni, al discorso delle pensioni di cui ha parlato anche Mughini e altri telespettatori. Cioè, se io ho una pensione da 90.000 euro al mese, sì. È chiaro che bisogna essere fare il conteggio di quanto ho versato. Se quello che ho versato chiaramente in molti casi è molto meno di quello che sto ricevendo, allora quando non avrò più bisogno, perché non si può stravolgere chiaramente la vita delle persone, Lo istituisco tutto. Quando ma chi lo stabilisce quando non avrà più bisogno? Certo non lei, perché se riceve 90.000 euro dirà che ne ha sempre bisogno. Quando non è morto? Quando uno è morto. Vabbè, ma scusi, ma che c'è? Quando uno è morto le pensioni non si erogano più. Esatto, e quindi dall'asse ereditario quello che ha avuto in più viene detratto e quindi il notaio manderà la quota di riferimento, se c'è capienza nell'asse ereditario, chiaramente, perché se non funziona così, i miei figli devono mantenere l'altra persona, ma i figli dell'altra persona. Che ha avuto magari questa... Vabbè, grazie Giuseppe, sarò io che continuo a non capire come dicono gli ascoltatori, però. Dove andiamo? Andrea da Varese, buonasera. Buonasera. Buonasera, prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire sul tema dei mini jobs, sì? Tedeschi. Non si è molto capito come l'avete spiegato. Sembra che adesso la Merkel crei dei lavoratori da 450 euro al mese poveri. In realtà non è così. Quello che fa la Merkel con i mini job è ingegneria sociale. Serve per mandare via gli immigrati meno istruiti, meno qualificati. Il mini job è fruibile solo dai regolari, dai tedeschi, dagli europei, e si può effettuare conservando il sussidio di disoccupazione. Nel momento in cui un disoccupato che percepisce i suoi 720, mi sembra che sia in Germania, euro al mese di sussidio di disoccupazione, può prendere un mini job e arrivare così a un reddito sufficiente a vivere, perché neanche in Germania si vive con 450 euro, neanche in Italia. Cosa succede? L'immigrato senza qualifiche si vede soffiare il posto di lavoro dalla casalinga pensionata, dall'immigrato, dal regolare, dal disoccupato regolare tedesco, e così in Germania negli ultimi anni sono fuggiti 700.000. Ma lei conosce la situazione tedesca perché c'è stato, perché ci va spesso? No, ho un amico che sì. Ci lavora da diversi anni. Vabbè, comunque no, intanto quello di Bertolotto è il nostro punto di vista strambo, lui fa delle proposte, ne abbiamo sentite mille. Dopodiché poi nessuna proposta potrà mai accontentare tutti. Grazie per questa precisazione, benissimo. Andiamo, dove andiamo? A Claudio che ci chiama da Genova. No, non c'è Claudio. Allora facciamo Francesco da Milano. Ce l'abbiamo Francesco da Milano? Sì, eccolo qua. Buonasera. Buonasera a lei. Senta, io sostengo che il primo agosto parlare di Berlusconi è diventato come essere un sacerdote di Apollo e vorrei che non se ne parlasse più. Questa storia per 20 anni, ed è stato il secondo ventennio che ci siamo presi in un secolo, ha paralizzato il paese. E lei però ne sta parlando anche lei in questo momento, anche se vuole che non se ne parli più. Non se ne parla, perché non è possibile. Cioè questa frase sua sarà l'ultima dichiarazione che faremo da Radio 24 su Berlusconi, quindi segnatevela perché poi non ne parliamo. Io provo. Vediamo se il momento è solenne, vada. È veramente solenne perché secondo l'antico adagio se ne parli male ma basta che se ne parli, insomma basta. Voglio dire, se uno ruba le mele finisce in galera, le mogli e i figli come campano? Allora anche lui avrebbe diritto a non espiare la pena, perché sennò la moglie e i figli non hanno da mangiare. Se estendiamo questo concetto a tutte le volte in cui c'è un problema, se uno va in galera o deve espiare una pena, è finita, no? La certezza del diritto, la certezza della pena. Io ritengo che sarebbe ora di smetterla con una persona che anni fa diceva le mie ex aziende, ma quali ex aziende? Basta, insomma, è 20 anni che siamo paralizzati da questa storia. Grazie Francesco, grazie anche a lei, buona serata, adesso invece è il momento, arrivati a questo punto, di lasciarci con una bella storia e andiamo a sentire di cosa si tratta. Si può fare, si può fare, si può fare, Abbiamo parlato di mini job e quindi insomma di dare lavoro in situazioni comunque di difficoltà e di crisi, ma quando il lavoro non c'è per niente, c'è la disoccupazione, ci vuole qualcuno che dia una mano. A Modena è nato il supermercato, ribattezzato così, dei disoccupati, si chiama Portobello, è un'iniziativa di solidarietà con chi è in difficoltà, che prevede però, e questo è l'elemento di novità, almeno a quello che ci è dato di capire, una partecipazione da parte di chi riceve questa solidarietà, cioè si chiedono ore di lavoro, di volontariato, proprio per tenere in vita tra l'altro il progetto del supermercato stesso. Chissà se l'abbiamo spiegata abbastanza bene, salutiamo Luigi Gironi, coordinatore di Portobello. Buonasera. Buonasera. C'eravamo sentiti qualche tempo fa, si può fare nel weekend, ci avevate parlato di questa iniziativa che doveva ancora nascere. Saranno un paio di mesi che avete debuttato. Quando è che è aperto il supermercato effettivamente? Ha inaugurato il 28 giugno. Sì? E il 29 sono entrati i primi clienti, quindi abbiamo da poco compiuto un mese di vita. Un progetto di solidarietà, io ho spiegato, l'elemento di novità forse è questo, cioè voi chiedete agli assistiti di darsi da fare, di fare qualche cosa, ci spiega come funziona? Sì, le persone che hanno una difficoltà economica dovuta al lavoro, quindi quelli che noi chiamiamo vulnerabili, nuovi poveri, no? Sì. Si rivolgono ai servizi sociali che sono nostri partner, quindi sono loro che si occupano di verificare le situazioni dei singoli e di valutare se sono o meno in possesso dei requisiti per accedere. Una volta che entrano, avevano un budget di punti, che è la moneta che usiamo lì dentro, e loro possono acquistare per un mese con quel budget che gli viene assegnato e per sei mesi c'è un rinnovo automatico del budget. Quindi è una famiglia che riceve di fatto del potere d'acquisto, sì, per sei mesi, col quale può far fronte alle spese dei generi alimentari. E fin qua, insomma, diciamo, di iniziative di aiuto di questo tipo ce ne sono. State, esatto. E ce ne sono in Italia. Abbiamo però pensato che comunque, cioè, ci piaceva sia dare il messaggio che è la comunità che si è attivata, quindi sono cittadini, aziende, istituzioni e fondazione, che la fondazione locale ci ha supportato molto, insomma, sì, è la comunità che si è attivata e ciascuno può fare la sua parte. Nel ciascuno c'è anche il beneficiario, quindi cerchiamo di trasferire l'idea a chi viene lì dentro che quando c'è un problema ci si attiva e si prova a risolverlo. E la cosa che ciascuno può fare è fare qualcosa per la comunità. Quindi a tutti i clienti diciamo, se hai tempo, voglia e disponibilità, ti diciamo dove puoi al meglio prestare la tua opera di volontariato. Allora, vediamo se ho capito. Gironi, c'ha l'auricolare per caso? Perché non sentiamo benissimo. No. No, ecco, diciamo, vediamo se semplifichiamo e se abbiamo capito bene. Diciamo, un disoccupato che viene da voi e riceve questa assistenza perché i servizi sociali hanno stabilito che ne ha diritto in qualche modo, siccome è disoccupato, il tempo libero ne ha a disposizione, allora voi dite cerchiamo di convogliare questo tempo, queste energie a favore comunque della comunità, a fare qualche cosa di utile, per esempio si può fare la cosa principale che tutti vorrebbero fare è fare attività dentro il supermercato stesso, quindi visto che sarà gestito da volontari. Ah, è la cosa che va per la maggiore, quella che viene più richiesta. Esatto. Però stanno cominciando, noi dico abbiamo già fatto 40 colloqui ai clienti, 20 sono già operativi, di questi 20 già almeno 4 o 5 stanno facendo attività al di fuori in altre organizzazioni del territorio, che sono poi partner del progetto. Perché il progetto nasce da 23 associazioni di Modena che si sono messe assieme per fare questa idea, sì, e col supporto del centro di volontariato. E quindi le altre cose che si possono fare oltre a lavorare nel supermercato sono? Ci sta dicendo? Fare un'opera di volontariato in ognuna delle associazioni, che possono essere dare una mano ad una mensa, guidare un pulmino, fare attività di dopo scuola con i bambini, andare al canile, stare un po' di tempo a fare animazione con gli anziani. Quindi insomma un'operazione quasi, diciamo, si prende e si dà sempre dallo stesso bacino, cioè il volontariato, l'area del volontariato modenese che dà a queste persone restituiscono qualche cosa e così il bilancio è meno negativo che in altri casi. Complimenti per questa iniziativa, noi siamo in chiusura, volevamo così rappresentare anche in questo spazio questa bella iniziativa, bravi, il supermercato Portobello a Modena, Luigi Gironi, Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Riccardo Buccero, Laura Faggina, Andrea Piana, Carlo Gabardini, lo ritroviamo domani in studio. Da me Alessio Maurizio, auguro di una buona serata. Valeria Bernardi regia. Domani ci sentiamo dalle 18 alle 20:30. Si può fare l'attualità anche d'estate. Buona serata a tutti.